Riconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Siamo ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Il mister è molto bravo, ci insegna tanto, noi lo dobbiamo solo seguire. Poi chi andrà all'Europeo sicuramente darà il massimo per la maglia azzurra per arrivare fino in fondo. In tutto questo tempo ho visto crescere la squadra, ho visto una squadra che gioca con dei concetti, con dei principi, ed è stato il credo del mister fin dal primo giorno che l'ho visto, farci diventare squadra. Penso che questo, se abbiamo questo spirito e questa squadra, poi abbiamo anche i giocatori di qualità che possono fare la giocata e poi toglierci le soddisfazioni. Una cosa posso assicurare a tutti gli italiani, che noi saremo squadra, questo è un ottimo gruppo fatto di ragazzi per bene che veramente amano questa maglia e hanno voglia di giocare per l'Italia. E di questo possiamo stare tranquilli e sereni, saremo squadra e cercheremo di fare del nostro meglio sotto tutti i punti di vista. Oh, lo sappiamo anche noi, che Pasqua, che magari state anche facendo altro, che rimpiangete le domeniche di campionato. Sappiamo anche noi, però vi teniamo comunque compagnia per un'ora, fino alle 18, per cercare un attimo di fare il punto, insomma, di cosa è successo negli ultimi due giorni, di gettare anche l'occhio oltre. Ciao Pier. Buona Pasqua, auguri. Eccoti. Buona Pasqua. Cos'hai trovato nelle 1000 uova che hai rotto? Ma ho trovato essenzialmente delle calorie. Ho trovato molte calorie. Sì. Molte calorie. Sì, molte. Fondente o al latte? No, fondente. Guarda, io non ne fai una discriminazione razziale. Non sono senza carboidrati, però. Io sono per lo zabaglione, per la crema pasticcera, sono per la frolla, sono per la crostata della nonna, sono per. Perché altro? Simo, perché altro sono io per. Per il pasticciotto, il pasticciotto leccese, perché sempre perché c'è la frolla, certo. Perché c'è la frolla. Aspetta che lo chiediamo anche a Fulvio Collovati, perché cos'è. Ciao Fulvio, buona Pasqua intanto. Buongiorno a tutti voi. No, io sono per il panettone, non so perché. Per il panettone. Il panettone è pacco, fuori però, stagione. Ma la sponda lombarda, il panettone. Vabbè. Buono. No, ma è una cosa strana, ma la mangio poco, devo dire la verità. Invece il panettone sempre, puntuale. Per cui uovo di Pasqua. Ma comunque non è male, dai. Non è arrivato ancora, ma. Vabbè. Anche la colomba non è male. Fulvio, pure la colomba si difende. Cioè, sì, no, ma, no. Adesso non apriamo una discussione su questa cosa. Chiamo Paolini. Chiamo Paolini su questa cosa. No, siamo nella domenica di Pasqua. Però abbiamo detto proviamo un attimo a capire, scartando questo ideale uovo di Pasqua, cosa, ad esempio, che cosa ha trovato Antonio Conte. Io non so se l'altra sera ti è piaciuta, Fulvio, la nazionale. Se secondo te ha scartato l'uovo con la sorpresa giusta, ad esempio Insigne, che pure è piccolino, ci sta dentro. Non l'uovo è una sorpresa, sì. Fulvio. Ma, io non lo so. Beh, allora, quello che ho visto un'ottima prestazione da parte della nostra nazionale, questo sì, però tutta questa esaltazione io andrei molto piano, cioè non. Campionati, cioè la competizione vera e propria ufficiale è un'altra cosa, cioè l'amichevole, che è vero che quando giochi in nazionale non esistono amichevoli, però andrei molto piano. La nazionale di Conte ha giocato molto bene, questo sì, ma no, cioè, non è una novità, cioè non vedo tutte queste sorprese che sono state scritte, che sono sì Insigne, benissimo, anzi si scopre adesso che Insigne ha queste qualità. Non si scopre, anzi, però in nazionale non c'era mai stato praticamente. È più forte di tutti Insigne. Sì, ma allora non ti devi esaltare per la mezz'ora, 20 minuti di Insigne, dovevi capire prima che Insigne aveva queste qualità. Io ripeto, sono sempre stato con i piedi molto per terra e lo sono tuttora. Perché? Perché conosco molto bene la mia della nazionale, che è un ambiente che si esalta nelle difficoltà, quando c'è troppa euforia, troppa gloria, andrei molto piano. Tutto questo, certo. Ma poi Conte è uno che le squadre fa giocare bene, le fa giocare con ritmo, con grande intensità, insomma, non è una novità questa, per cui no, però lui stesso ha detto che aspettava delle risposte, qualcosa ha trovato. Conto, scusate, che c'era anche una Spagna che forse la più vista, cioè la Spagna è stata più amichevole di quanto fosse ci aspettavamo. In ricostruzione la Spagna, no? Semmai possiamo sorprenderci, Pardo, del fatto che Insigne non giochi stabilmente dal primo minuto e senza discussioni. Ma io allora penso sulla Spagna, sono d'accordo, sicuramente non è la Spagna degli ultimi anni, sicuramente è in fase di ricostruzione, probabilmente ha affrontato la partita con atteggiamento da amichevole, che quindi ci ha aiutato a fare bella figura. Su Insigne sono contento, perché Insigne essenzialmente per un certo periodo è stato in punzione, cioè comunque c'era un po' di freddezza dopo la famosa dopo il famoso ritorno a casa di ottobre, se non sbaglio, se non fosse la convocazione di ottobre con la visita medica, quindi anche con qualche polemica. Io penso che oggi Insigne, anche attraverso questo gol e questa buona prestazione, si sia messo in pole position come merita per andare all'europeo. Deve essere titolare adesso. Io credo andare all'europeo è fuori discussione. Entra nel novero dei 12-13 titolari. Chiaramente vediamo meno. Che lo scorso anno ha fatto delle cose incredibili a livello di Major League Soccer. Però insomma, Insigne era in ballottaggio, oggi secondo me è abbastanza sicuro del posto. Poi se sarà titolare o non sarà titolare dipenderà molto anche dal modulo. A me sembrano segnali incoraggianti, mi sembra una squadra, sono abbastanza d'accordo con quello che dice Conte, cioè la percezione è che questa squadra venderà a cara la pelle, poi non siamo i più forti d'Europa, su questo non ci sono dubbi, le incognite sono tantissime. Fulvio, ma in quel clima di cui parlavi, in cui poi siamo abituati a dare il meglio, scrivi anche questa settimana di polemiche, cioè, secondo me ha fatto bene la federazione, ha fatto bene Conte a dire con chiarezza che cosa accadrà dopo l'europeo. Però dopo ci sono state le critiche, c'è chi si è sentito offeso dal paragone tra la nazionale e il garage, non so come la pensi tu. Ma fa parte del gioco, penso. Cioè, io non, francamente non mi sono stupito che Conte lasciasse la nazionale, mi meraviglio di chi si è stupito, cioè, probabilmente si è illuso il nostro presidente federale scegliendo Conte che rimanesse alla guida della nazionale. Conte l'ha detto, è un uomo giornaliero, quotidiano, un uomo di tutti i giorni, un allenatore di campo quotidiano, per cui in alla nazionale in due o tre mesi questo non gli sarebbe bastato. Per cui, ripeto, le polemiche fanno bene alla nostra nazionale, perché creano aggregazione, creano uno spirito diverso rispetto al solito tran-tran, però, ripeto, mi è molto piaciuta questa nazionale, però le competizioni sono un'altra cosa, per cui in quanto Insigne, fatemi dire, sono contento, però sarebbe stato vergognoso non convocarlo in nazionale dopo quello che sta facendo, perché un giocatore che ha fatto 10, non so, a parte quello che rappresenta per il Napoli adesso insieme a Higuain, ma è un giocatore che ha fatto più di 10 gol nel Napoli, sta facendo un campionato eccezionale, non chiamarlo vuol dire essere accecato, vuol dire non rendersi conto di quello che sta facendo del Napoli. E sarebbe stato anche non fare il bene della nazionale comunque. Bravissima, certo. Vabbè. Tu ti sei sentito offeso da campione del mondo del paragone col garage? Perché tanto ce lo porteremo avanti, lo diceva venerdì anche Pierluigi. Pier, io non so se lo confermi, ce lo porteremo avanti per mesi, fino all'europeo, anche oltre. Secondo me no, è quello che lui ha sempre pensato e anche detto in altre occasioni. Ma noi possiamo dire, secondo te le persone possono dire esattamente sempre e comunque quello che pensano nei toni e nei modi, no? Ma l'abbiamo anche un po' strumentalizzata questa battuta, lui parla di se stesso, non stava parlando nazionale, però non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. Io, se tu mi chiedi in questa polemica se sono dalla parte di Conte o no, io ti dico che sono dalla parte di Conte, nel senso che lui secondo me è stato onesto e ha detto quello che pensa, e l'ha detto appunto in maniera molto sincera. Detto questo, il fatto che già adesso è passata una settimana e continuiamo a parlare di questa cosa, ti dico che secondo me se lo porterà dietro. Se lo poteva evitare. Fulvio, ti sei sentito offeso? No, una cattiveria da fare? Ma no, sinceramente no, ti dico la verità. Sì, è un termine magari che non mi è piaciuto, ma è la verità. La nazionale in realtà gioca ogni due mesi, poi però non penso sia stato dispregio nei confronti della nazionale, ma figuriamoci, è il suo modo di pensare, per cui non ho visto nessuna cattiveria da parte di Conte. No, allenatore emergente, ha molta fame, assolutamente. Ha bisogno anche di certi stimoli. Un clima intorno a non solo alla nazionale, ma anche intorno a un personaggio. E Conte è un personaggio in questo momento, per cui non ho trovato offensivo assolutamente. Che ti aspetti e poi ti lascio fra due giorni dalla Germania, perché spesso noi in queste amichevoli qui, prima delle grandi manifestazioni, a tre mesi abbiamo la risposta, capiamo se siamo un gruppo o no. Allora, la Spagna era troppo amichevole e abbiamo capito, ce l'hai detto. Cosa deve dire allora fra due giorni la partita con la Germania per convincerci che possiamo fare come dice Conte, cioè andare là e giocarcela? Ma non ho dubbi che l'Italia ripeterà la stessa prestazione dal punto di vista dell'intensità, anche se giochi a distanza di due giorni, poi verranno fuori le solite cose, la stanchezza. No, lo spirito di Conte è questo, per cui l'Italia giocherà sicuramente dal punto di vista di intensivo, giocherà una buona partita. Poi dopo il risultato sai che è legato agli episodi, però la Germania, io non mi sono mai preoccupato della Germania, è la Germania che deve temere noi, non noi la Germania, perché la Germania sai benissimo che insomma scatta qualcosa nei confronti di questa maglia tedesca, questo popolo tedesco, non lo so, che noi sono loro che ci soffrono, non noi che soffriamo loro, per cui non mi preoccupo, per cui ci sarà un'altra partita positiva da parte della nostra nazionale, sicuramente, ne sono convinto. Non so chi giocherà, chiaramente farà ruotare la rosa. Detto questo, fra due mesi e mezzo, la competizione europea sarà un'altra cosa, perché ci saranno le tensioni, ci sarà la prima partita, l'esordio, le emozioni, ci sarà la fine del campionato, attenzione, la fine del campionato, perché adesso anche altro film. Come ci arriviamo? Per cui sarà una cosa completamente diversa. Però spesso qualcosa abbiamo intravisto sempre quando mancavano i due o tre mesi dalle grandi manifestazioni. C'è traffico, sì. Grazie Fulvio. Ciao Fulvio. Grazie a voi. Ciao. Buongiorno. Grazie buono. Fulvio Collovati. C'è il traffico, poi ci tuffiamo mani e piedi in dove? Campionato che è fermo, ma che poi promette, da quando potremo da mercoledì mattina tornare ad occuparcene, promette un finale interessante. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Tutti convocati. Controllo e tiro, violento, rete, rete, che gol, capolavoro di Dybala, 2-0 Juve, un gol gioiello. Astronavi in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Palla per Higuain, palla persa da Ilicic, Higuain, 2-1, è il Pipita, è sempre il Pipita. E non hai visto ancora niente, e non hai visto Quadrado, quindi Dybala, fino in fondo Dybala, 3-1 Juve, ecco il punto esclamativo. Anzi, cura contro uno, incassi in mezzo, Higuain, il Pipita. Il neon dell'insegna di un motel, con una lettera spenta. Se ne va Morata al limite, Morata allarga per Dybala, per chiuderla Dybala, 2-0 Juve, la firma di Dybala. Anzica dentro, Higuain nel suo aggancio, libera il destro, straordinario Higuain. Venerdì facciamo la riflessione su a chi giova di più questa pausa nella volata tra Juventus e Napoli. Eravamo un po' tutti d'accordo, Pier, sul fatto che andasse meglio alla Juve. Ci ho fatto una riflessione, non solo va meglio alla Juve, ma io ho l'impressione che il derby sia stato il contro-break decisivo di questo campionato. Io non so come resta la pensate la sensazione, voi. Resta la sensazione che quella sia stata una partita chiave, però secondo me decisive saranno le ultime 5. Ovviamente se vanno così le cose, se arriva all'ultimo miniciclo delle ultime 5 partite in cui il Napoli avrà un calendario non semplicissimo, peggiore rispetto a quello della Juve, allora quello sarà il miniciclo decisivo, posto che il Napoli concluda questo ciclo di 5 con altrettante vittorie. Pier, tu cosa pensi? Che è una sfida dove non si sbaglia, quindi per dirti banalmente, domenica prossima c'è Udinese-Napoli, che è una partita chiaramente alla portata del Napoli, ma comunque con la sua complessità, e è chiaro che se sta a meno 3 anche un pareggio diventa definitivo e decisivo. Sicuramente il derby è una partita per mille motivi psicologici legati a Monaco, alla complessità del derby, all'agonismo del Torino. È una partita che poteva portare la sorpresa, non l'ha portata, quindi sono abbastanza d'accordo sull'idea che sia stato un passaggio cruciale, decisivo e definitivo forse no. Io aspetterei almeno Milan e Juve, che mi sembra l'avevo detto. Sì, anche se la settimana dopo c'è Inter-Napoli, cioè da qui in poi il calendario. Aspetta che coinvolgiamo anche Aldo Serena. Ciao Aldo. Ciao Aldo. Buon pomeriggio a tutti. Non so se vuoi partecipare anche tu al gioco delle percentuali. Io sto dal 60 in su per 100 per la Juve e ripeto, secondo me in realtà il contro-break c'è già stato, quello sì, decisivo. Anch'io, tu? Anch'io penso che la percentuale sia giusta. Lo shock di Monaco è stato assorbito subito con un gran primo tempo della Juventus, poi le polemiche della seconda parte sono anche, in alcuni casi anche da capire, però la squadra ha dato subito un segnale forte di padronanza, di volontà di andare a vincere, non ha avuto contraccolpi di nessun tipo. E Dybala infortunato è rientrato Morata, e Morata subito ha fatto vedere la sua qualità, quindi anche negli infortuni la Juventus trova dei giocatori che quest'anno non hanno fatto benissimo come Morata. Possiamo fare però tutti quanti un applauso al Napoli, perché comunque vada a finire è difficilissimo correre sempre sapendo di non poter sbagliare mai. Come diceva prima giustamente Pardo, basta un pari e si chiude il discorso. Il Napoli è secondo in classifica per un gol su deviazione all'88esimo, appunto, una partita giocata alla pari. Stiamo parlando di due squadre meravigliose tutte e due. Mi viene a dire che non gli faccio i complimenti al Napoli, perché sennò poi sembra che si debba accontentare. Il Napoli deve crederci fino alla fine. Sicuramente sta facendo una stagione impressionante. No, poi è difficilissimo Sicilia, correre sul filo senza rete. Però non è finita, io sono convinto che non sia finita. È chiaro che la Juve, sono d'accordo sulle percentuali, è avanti, ed è avanti perché fra quelle due lì, a differenza del duello per il terzo posto, dove secondo me ancora potranno esserci dei passaggi a vuoto, dove comunque un pareggio in certe circostanze sarà quasi utile, e lo dimostra evidentemente quello che è successo nell'ultima giornata, Roma-Inter che pareggiano, il pareggio della Fiorentina a Frosinone, che è una grande occasione persa. Le due lì davanti devono vincere sempre, cioè ogni pareggio è una tragedia. Quindi, io faccio fatica a capire dove la Juventus possa bucare due partite in più del Napoli, no, perché poi i punti non sono tre, sono quattro oggi. Sì. Perché sì, ha rimontato anche nella differenza reti, per carità, per poco, di un gol, però era otto giornate fa, era dietro di 5. Se il Napoli dovesse recuperare tre punti da qui fino alla fine del campionato, è abbastanza probabile statisticamente che per recuperare questi tre punti possa recuperare. Sì, ma nel possesso palla si direbbe è avanti di due possessi nel basket. La Juve, tu lo vedi da qualche parte, Aldo, dove la Juve possa perderlo questo campionato, possa perdere questi 3,5 punti, dai, non 4. Difficile anche alla luce della difesa granitica che ha la Juventus, ha proprio una fase difensiva straordinaria, sorretta dai giocatori di difesa che sono ormai dei punti cardine della Juventus, e non solo in campo ma anche fuori, quindi giocatori abituati a vincere, che sanno come si fa a arrivare anche proprio a stretto contatto con chi te lo vuole soffiare lo scudetto. Sì, vedo molto difficile, però insomma ci sono ancora 8 partite, 24 punti a disposizione, e quindi numericamente ci può stare. Voglio fare un appunto sul Napoli. Secondo me il Napoli ha fatto benissimo, Sarri è stato straordinario, però questo Napoli l'ha un po' sorretto, Higuain con 29 gol, sì. Un giocatore che forse ha fatto la miglior stagione della sua carriera, ed è stato immenso, perché fare 29 gol nel campionato italiano è una cosa strepitosa, con 8 ancora partite da giocare. Poi guardi l'Argentina contro vedi Higuain in panchina che gioca gli ultimi 25 minuti, esatto. E ti chiedi come mai, con Dybala che torna a casa e secondo, ma quanti ne hanno questi? Quanti ne hanno? Ne hanno tanti di qualità. Di fuori classe. In attacco sono strepitosi, insomma, c'è l'imbarazzo della scelta. Per fortuna, ecco, non hanno il centrocampo di difesa come hanno la qualità in attacco, e quindi è una nazione ancora abbordabile. Però Dybala potevano lasciarcelo, eh? Che senso? Dybala, sai che Conte è andato a Palermo, sì, cercando di convincerlo a giocare con la maglia dell'Italia. Dybala avrebbe anche potuto sceglierla, la nazionale italiana, è andata così. Poi è l'abitudine, posso dire una cosa? È l'abitudine della Juve, secondo me, è la storia, la tradizione degli ultimi anni della Juve che ci fa pensare che il campionato sia, non dico chiuso, ma abbastanza avviato, perché se fosse il contrario probabilmente non penseremo le stesse cose. Se oggi Napoli avesse 3 punti di vantaggio sulla Juve, visto che ancora 2-3 partite insidiose ci sono nel calendario di tutte e due le squadre, probabilmente avremmo pensieri diversi. Quindi anche l'evoluzione di questa stagione, che la Juve ha cominciato praticamente regalando 10 giornate ti rendi conto che se dovesse chiudere il percorso netto, quindi non vincere tutte le prossime 8, chiuderebbe con 27 vittorie nelle ultime 28 partite. Sì, qualcosa di credo irripetibile, dai, anche se l'aggettivo irripetibile con la Juve diventa complicato in questi anni. Aggiungo che se il Napoli o chiunque altro non vince lo scudetto quest'anno, con la Juve che inizia un nuovo ciclo, tanti cambi, regala le prime 10 giornate, 27 su 28 non vincerà mai più. Ma 27 vinte un pari. Mi fate sentire invece il triello, non il duello, il triello, quello per la Champions. Champions è più lontano, perché stiamo attraversando un momento che i risultati non arrivano come arrivavano prima, e siamo in un momento difficile, ma comunque sono questi momenti che ci possono aiutare a renderci più forti. Ci sono tante partite a disposizione ancora e tanti punti. Abbiamo fortunatamente lo scontro diretto con la Roma in vantaggio, quindi non si sa mai, arrivassimo a pari punti con la Roma, magari riusciamo ad andarci. Io penso che sia ancora così, sia molto aperto, non mancano 2-3 giornate alla fine, ne mancano 8 mi sembra, quindi è ancora lunga, lunghissima. Sembra che l'Inter abbia giocato tutte le partite, perlomeno quelle che io ho visto, per portare a casa il risultato pieno, come mi sembra abbiano dichiarato, mirano poi a questa posizione in classifica. Poi l'abbiamo fatto noi quando eravamo allo stesso punto di loro, eravamo a meno 5, ambivamo a questa posizione, è lecito che lo facciano loro adesso. Allora io vi do le mie percentuali: Roma 60%, Inter 25%, Fiorentina 15%, perché mi sembra oggettivamente scoppiata, anche se ha il calendario più facile, se dimostra di tornare sulle gambe, al limite lo spazio per una rimonta della Fiorentina potrebbe anche esserci. Io vedo la Roma strafavorita per il terzo posto, direi invece 80% per la Roma, che non dà l'idea di poter avere grossi cedimenti. Pier, Aldo, 60-30-10. 60-30-10 Roma, 30 Inter, 10 Fiorentina. Perché qualche crepa si è vista nella Roma, si era vista anche a Udine, si era vista anche a Udine, dove alla fine aveva anche rischiato di pareggiarla come partita, Aldo. Io non so se tu vedi qualche segnale di cedimento. Io dico le mie, 70-15-15, penso che se fosse la Roma ambivalente di Garcia, se fosse una Roma che aveva perso identità, che allora cambierebbero sicuramente. Mi sembra che Spalletti abbia lavorato sia sotto il profilo del campo, quindi tattica, e anche sotto il profilo mentale. Una squadra questa che adesso credo difficilmente non riuscirà a centrare il terzo posto, perché 5 punti sono tantissimi, e soprattutto anche una squadra che adesso sta bene, in salute, è una squadra che ha trovato anche motivazioni che prima sembrava non aver più. Ma secondo te il derby è pericoloso, o per come è messa la Lazio quest'anno, o per le condizioni anche ambientali in cui si giocherà, certo, questo derby senza tifosi, senza curve, insomma è qualcosa di più semplice rispetto al passato? No, io penso di no, perché il derby è pur sempre una partita strana. La Lazio è una Lazio che ha dei campioni che non hanno sempre dimostrato le proprie qualità in campo in questa stagione. Pioli anche, devo dire la verità, mi aspettavo una crescita della sua squadra rispetto dopo la grande stagione della, dell'anno passato, una crescita notevole. Mi pensavo che la squadra avesse raggiunto già una buona base di partenza, invece alcune certezze se ne sono andate, perché ha avuto anche parecchi infortuni e questo ha condizionato sicuramente il cammino della Lazio, però mi sembra una squadra abbastanza distante dalla Roma in questo momento. Anche se la San Siro ha giocato una buona gara contro il Milan, visto il derby della Juve contro il Torino, in qualche modo lo è stato, se guardiamo e analizziamo la partita certamente lo è stato, al di là del 4-1 finale, io penso che sia, poi c'è la pausa che comunque può essere sempre storicamente un elemento che rimescola un po' le carte, quindi è evidente che la Roma abbia più della Lazio, questo non ci sono dubbi, lo dice l'intera stagione. È anche vero però che la Lazio è una squadra strana quest'anno, pazza Lazio, bisognerebbe dire tante volte, nel senso che ha alternato buone prestazioni e qua sorpresa a partite veramente di grande sofferenza. Quindi io aspetterei, ecco, il derby è una partita, secondo me il calcolo delle probabilità, magari ce lo facciamo dopo il derby, chiaro, se la Roma scavalla il derby e vince, credo che il traguardo si avvicini moltissimo. Se dovesse complicarsi la situazione, anche se poi comunque tutte hanno un calendario diverso, cioè appunto qui è il contrario secondo me di Juve-Napoli. Su Juve-Napoli è possibile che facciano 24 punti, sì, sono molto diversi i calendari qui, no? Mi sembra che invece insomma, però è più facile quello della Fiorentina, sì, che noi continuiamo a considerare fuori, però mi sembra un po' scoppiata la Fiorentina. La Fiorentina, ragazzi, poi io mi ricordo all'inizio dell'anno venivamo insultati, no, perché sembrava, però la Fiorentina secondo me ha qualcosa in meno da un punto di vista proprio di profondità della rosa, cioè bisogna fare un applauso a Paolo Sousa secondo me, ai giocatori della Fiorentina, perché secondo me sono in una posizione di classifica che è migliore di quello che teoricamente dovevano avere, quindi sì. Vuol dire che hanno fatto molto bene. Poi la Fiorentina è sopra il par decisamente. A Firenze ci avevano fatto la bocca al terzo posto, non credo a qualcosa di più. La bocca al terzo posto, poi purtroppo per il tifosi viola fino a questo momento non ci è arrivata mai, però non è così strano secondo me, è che al di là dell'anno del gol di Mexes, di Siena Milan, con anche mille recriminazioni arbitrali che ricordiamo benissimo, però in generale a me, insomma, per me la Fiorentina non è tecnicamente fra le prime tre squadre del campionato, lo dico proprio con... Lo dico in maniera chiara e cruda. Per me la Fiorentina è una squadra chiaramente da quinto o sesto posto e sta facendo pienamente il suo dovere. Cioè essere lì, merito di chi la sta spingendo oltre quel limite. Verrebbe da dire, con buona pace di tutte le polemiche anche che in questi mesi sono stati fatti, anche su Paolo Sousa e alcune cose che ha detto quest'inverno a mercato aperto, forse per stimolarla la Fiorentina a provare anche ad investire per andare oltre quei limiti. Dobbiamo fermarci, Pier, ciao. Ciao Pierluigi, ciao a domani, ciao Aldo Serena. Ciao a tutti. Ciao, grazie. C'è la pausa, poi torniamo, ci tuffiamo nel mondo dei motori. Motori. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Tutti convocati. Rock Concert Movement number one. The Basic Hip Hop. Ready. l'ultima curva e poi va sul traguardo per festeggiare la sua 15ª vittoria in carriera. Raggiungere Jenson Button, Nico Rosberg vince il Gran Premio d'Australia, lo fa davanti al compagno di squadra doppietta Mercedes Lewis Hamilton, ma la Ferrari quest'anno può lottare per il titolo mondiale. Siamo battuti ma vispi, nel senso che siamo arrivati dietro, non siamo saliti sul podio e quindi questo naturalmente ci dispiace, anche perché è stata una gara molto dura, però siamo lì e dobbiamo lavorare e dobbiamo adattarci, adattare un po' la moto di più, però dai, non è andata male. Sai questo detto che dice che una immagine vale più che mille parole? Allora, stare zitti, insomma, che ognuno faccia la sua riflessione. E noi da una settimana che riflettiamo e ne abbiamo davanti anche un'altra, sì, per riflettere sulle parole di Jorge Lorenzo e anche c'è su quel filo. C'è poco da riflettere. Ma sì, la battaglia è cominciata. Ma sì, a me mi ha anche già annoiato, se devo essere sincero, perché fatico a capire l'utilità del Mind Games dall'atto numero uno di una stagione. Ma sai, questa stagione si decide già dall'inizio, da ogni Credo si decide del fatto che Lorenzo ha la moto che va come quella di Valentino Rossi, o magari anche un po' di più, è forte, è fortissimo, appunto, si è liberato da mille problemi psicologici. Sicuramente, è il grande favorito. Non ha più complesso di inferiorità. Valentino prova a tenerlo sotto pressione. Io no, posso dire che mi sembra anche che rischi di essere tutto un po' finto. Aspetta che lo chiediamo anche ad Antonio Boselli, dalla squadra Sky di motori. Ciao Antonio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Forse sono pessimista io perché è il pomeriggio di Pasqua e siamo tutti un po' pesantiti dal pranzo. No, però mi sembra artificioso. Tutto. Sono dell'idea che semplicemente quello che abbiamo vissuto in Qatar è semplicemente lo strascico della stagione scorsa. Voi sapete benissimo il rapporto di Lorenzo e Valentino, è sempre stato un rapporto di alti e bassi. Quando arrivò in Yamaha, Valentino volle il muro per non scambiare i dati, poi Valentino andò in Ducati, tornò, ci fu riavvicinamento, addirittura l'anno scorso pianificavano di fare delle gare in auto insieme e poi sappiamo quello che è successo nel finale di stagione, con dei gesti, il pollice verso di Lorenzo in malese, anche le parole molto dure nei confronti del compagno di squadra, e credo che gli ha dato dello stupido Valentino Rossi, cioè credo ci sia anche un punto di non ritorno, al di là che quello era un momento di grandissima tensione. Sì, ma poi adesso c'è anche una situazione molto particolare, perché sappiamo che Valentino Rossi ha rinnovato per 2 anni, Lorenzo è allettato da proposte, soprattutto quello della Ducati, e Valentino non ha perso occasione di dire, insomma, per fare un passo del genere ci vogliono gli attributi e quindi per andare in Ducati, e lui non ci andrà, come dire, Lorenzo non ha le palle, cosiddette attributi. Come dire, se potesse andare lo accompagna alla porta con questo giochino, sì, di dire che ci va solo se corre, come coi bambini, solo quelli bravi fanno così, ma tu non lo sei, come dire, dai, fammelo vedere. Valentino ha rinnovato per 6 milioni l'anno. Non è che ci portiamo dietro l'anno scorso, ecco, questo è un po' la sintesi. Ma sì, ma io credo ci porteremo dietro quello che è successo l'anno scorso per tutta la stagione, e credo anche che Valentino non perderà occasione per cercare di dar fastidio anche mediaticamente a Lorenzo. Poi Valentino ha rinnovato per altri 2 anni a 6 milioni a stagione, a Lorenzo, se non sbaglio, ne offrono 8 a stagione alla Yamaha, la Ducati alza di 2, e quindi si tratta anche di una battaglia del grano. Ma Valentino Rossi ha qualcosa da guadagnarci in questa battaglia di nervi? Io non lo so. Normalmente lui è quello che li ha più saldi. Lui adesso stia semplicemente mettendo probabilmente quel carico di tensione dal punto di vista mediatico, per magari colmare quel gap tecnico che vediamo in pista. Sta usando un po' tutte le armi che lui ha sempre usato nella sua carriera, in questo momento forse un po' di più, proprio perché Lorenzo, e questo lo si è visto nei test, anche con queste nuove gomme Michelin che sembrano sposarsi col suo stile di guida, è veramente di un livello superiore, e quindi secondo me c'è anche un tentativo proprio di, come dicevate voi, insomma, di mettere ulteriore pressione sul pilota spagnolo, che, attenzione, è bravissimo in pista e sta facendo cose egregie, ma vi assicuro che la notizia del rinnovo di Valentino, arrivata prima di quanto dovrebbe arrivare la sua, in teoria, lo ha innervosito molto. Quindi nei fatti Valentino le sue carte le sta giocando, il rinnovo l'ha giocato secondo me in maniera molto furba, nel senso che ha detto ci metterò. Quindi la Yamaha si sta prestando al gioco di Valentino Rossi, ci stai dicendo? Bene, no, nello stesso momento la Yamaha... No, ha ragione Lorenzo a farsi due domande allora. Sì, più che altro la Yamaha fa un ragionamento molto semplice, dice a Lorenzo: Jorge, questa è la moto migliore che tu possa avere, non facciamo gare al rialzo, noi non facciamo aste, quindi questa è la nostra proposta, se ti va bene la accetti, se non ti va bene noi comunque, questo l'ha detto il team managing director, che è il capo un po' della Yamaha MotoGP, Lingiaro, ci ha detto noi comunque abbiamo già il piano B, il piano C. Quindi la situazione è che effettivamente Valentino ha saputo sfruttare anche il fatto che la Yamaha ha bisogno in questo momento di una sponda per poter mettere poi nelle condizioni di Lorenzo di scegliere o la strada sicura, magari non con tutti i soldi che gli potrebbe dare a Ducati, o di fare il salto in Ducati. E forse tutti sanno che Lorenzo non andrà in Ducati. Quella frase di Valentino è anche proprio per cercare di mettere il carico da 90 su una scelta che probabilmente tutti sanno già che sarà nel verso della Yamaha. Sì. E quindi è un gioco, una partita a scacchi. Poi con Valentino Rossi è sempre stato così, tutti i suoi avversari sono andati sotto quasi tutti perché finale di stagione l'anno scorso ci racconta che ci può anche essere un esito finale. Poi c'è quel filo che porta da Valentino Rossi alla Rossa. Noi per una settimana ci siamo interrogati se dobbiamo essere stata più incoraggiante o no. Sì, ma è stata non più incoraggiante la gara della Ferrari che non quella di Valentino Rossi. Quella di Valentino Rossi è stata un po' deludente proprio perché vedevi che non riusciva a dare più di quello che ha dato. La Ferrari è stata una corsa strana, però abbiamo sentito la telecronaca di Sky, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che la Ferrari possa essere da titolo. Sì, guarda, c'è un po' il dilemma, cosa sarebbe successo se, riferimento alla strategia della Ferrari di puntare su una gomma super soft, adesso senza andare nel dettaglio, comunque rimane un po' il dilemma, insomma, se la Ferrari avesse vinto la gara. Però posso aggiungere un altro dilemma, visto che siamo nella domenica dei sei. Cosa sarebbe successo se Hamilton, invece di partire fermo, fosse partito? Sì, questo è un altro dato. Però attenzione, perché la cosa interessante è che la partenza della Ferrari non è casuale. La partenza super della Ferrari non è casuale. La partenza un po' molle dei due piloti della Mercedes invece forse è dovuto proprio ad un aspetto tecnico che non hanno considerato secondo me a dovere e che probabilmente hanno sottovalutato. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che la Ferrari nella gara, nella strategia ha commesso molto probabilmente un errore certificato poi dal risultato. La partenza della Ferrari invece e conseguentemente la partenza un po' meno buona della Mercedes invece potrebbe essere qualcosa che si ripresenterà anche in Bahrain, e di questo sono abbastanza preoccupati i Mercedes, perché hanno sottovalutato il fatto che quest'anno c'è una differenza regolamentare importante, non si può più partire con due leve della frizione, in pratica prima si rilasciava una prima frizione e poi una seconda, quest'anno c'è solo la possibilità di giostrarsi con una leva sola. La Ferrari ha trovato qualcosa dal punto di vista tecnico che potrà fare la differenza anche nel corso delle prossime gare. Questo è un dettaglio della partenza. Sulla prestazione della Ferrari secondo me c'è molto margine, è una macchina giovane, è una macchina che può sviluppare tanto e può essere sviluppata tanto, rimanendo sempre però con l'incognita di quanto ne abbiano i Mercedes, perché tutte le volte fanno sembrare un po' sì, che gli altri siano vicini, sono arrivati quasi al livello. L'ha detto anche Marco in settimana, super consulente della Red Bull: i Mercedes sono bravissimi a nascondere quelle che sono le loro potenzialità, la loro schiacciante superiorità, se volessero potrebbero già oggi doppiare tutti, Ferrari compresa. Magari è un po' eccessivo questo magari è un sì, po' eccessivo. C'è sempre l'incognita, da me incuriosisce molto il discorso delle prove di questo abominio. Beh, noi siamo sicuri che nel prossimo straordinario weekend di motori avremo ancora il meraviglioso format delle prove. Quella schifezza che si è inventato. Per cui si può andare via 5 minuti prima. Ah, pazzesco. Sì, ma guarda, il problema è forse più grande, cioè questa delle qualifiche sta mostrando in tutta la sua come dire, tutto il suo clamore, un po' l'impasse che c'è dal punto di vista della governance della Formula 1. I piloti hanno addirittura scritto una lettera aperta alla quale ha risposto Ecclestone. I piloti hanno detto: questa è una Formula 1 che è malamente strutturata e che ha un modello decisionale, di processo decisionale obsoleto. Ho detto, avete ragione, la faccio fantastico. Io. Ecclestone esatto. Ha risposto dicendo: molto spesso non sono d'accordo con voi, ma questa volta avete ragione. Però perché veramente ha preso la palla al balzo dicendo: sono d'accordo anch'io con voi, quando probabilmente i piloti ce l'avevano con lui, mettevano tra i responsabili proprio Ecclestone. Io credo che questa è una Formula 1 che da questo punto di vista ce la dovremo tenere finché Bernie Ecclestone sarà a capo di tutto, perché comunque è il suo modo di gestire le cose, l'ha fatto per 50 anni e quindi difficilmente cambierà la Formula 1. Detto che mediaticamente è stato fatto un autogol pazzesco, perché non solo è stata fatta una cosa che poi nei fatti si è risolta in un autogol dal punto di vista dello spettacolo, ma in più si è deciso di cambiarla la domenica di Melbourne e tutti erano d'accordo. Poi c'è stato un voto, alcuni non erano d'accordo nella giornata di questa settimana di giovedì, è stata una cosa per cui sono ritornati indietro e alla fine si va a correre ancora con questo format di qualifiche. È stato anche questo un sistema, così proprio una procedura decisionale veramente farlocca, ma credo che ci voglia una nuova governance che arriverà poi quando cambierà un po'. Arriverà così, arriverà il vita dopo. Naturale durante un po' come Bernie il Papa, fino a Ratzinger. Ci fermiamo, c'è il traffico, grazie Antonio. Ciao Antonio, grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie Antonio Boselli. Sabato e domenica prossima Argentina per le moto, Bahrain per la Formula 1, con la certezza che rivedremo quella roba lì durante le prove. Dai, traffico. C'è il traffico! Come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Quasi una seduta psicanalitica, perché è sempre la testa, ogni settimana parliamo di problemi di testa. Se invece avete pensato, visto che vanno tanto di moda, motivatori o cose o qualche cosa specifica, non so. C'hai qualche nome a suggerirmi? Sì, però se guardate sedete lì. Non basta gli idoli. Non lo so se serve motivatore, psicologo, psichiatra, no, appunto, esorcista. Cosa serve? Non so, è quello che. No, ma quello mi sto chiedendo anch'io, da 7 mesi che mi sto chiedendo. Penso di aver trovato una cura, poi dopo no, non è giusto, vedi, ho sbagliato, bisogna trovare un'altra, e allora non riesco mai a decidermi chi è meglio per noi. Oh, che noi eravamo indecisi come chiudere la puntata di Pasqua, poi abbiamo detto, insomma, abbiamo detto che è uno dei temi, cioè io sono giorni che mi chiedo che cosa abbia in testa Berlusconi. Serviva l'agnello sacrificale. Sì, cosa, perché sai, prima ha detto che lo manda via, poi ha detto che forse lo tiene, poi ha detto no. Che non gli piace il gioco, il Milan era quello di Schiaffino, poi ha detto che se vince la Coppa Italia questa è mancanza di rispetto, sì. Perché io sono arrivato prima di tutti quanti, anche prima di gente, prima di te Capuano. Sinisa, ci siamo. Io sono 7 mesi oggi è il giorno, è domenica di Pasqua, oggi esorcista, voi chiamate esorcisti, no, esci di quello corpo, motivatore, psicologo, caro, diglielo tu, adesso hai a 5 minuti, Sinisa Mialovic, sì, puoi fare una specie di comizio, 5 minuti. Sinisa, tutti... puoi fare una specie di comizio, non senti, c'è gente, ma a te piace la colomba col pistacchio o mangi, sì, senza pistacchio? Beh, e con la colomba tu cosa mangi? No, tu... però gli abbiamo dato 5 minuti per parlare del Milan. Allora io dopo la colomba e tu mangi anche panettone col, sì, pistacchio. Io mangio anche il panettone. Secondo me Capuano è più anche tipo da Pandoro, mangia il panettone, più tipo, no, da Pandoro. Ne abbiamo, sì, parlato, il problema è che il Pandoro, sì, non lo mangi tu, cioè il panettone non lo mangi, allora, tu. Allora io ti dico questo, perché adesso, allora, 7 mesi che mi fate, 7 mesi che mi fate aspettare. 7 minuti per 7 mesi. Sì, ma adesso io aereo che parte per no, non ti puoi tirare indietro. Ma adesso io devo andare per Pasqua, poi ci abbiamo della cosa, noi abbiamo sempre le nostre tradizioni. E quindi, quella con la signorina in studio che mi sembra, sì, molto simpatica. È sempre Claudia Schiattone. Io non conosco, tu mi presenti a me con questo signore gente, a me interessano più altre cose. No, poi c'è quello con la barba che non mi interessa niente. È Gianmarco Ferronato. Vabbè, a me di Ferronato interesserà il Milan, no? Interesserà il Milan. Berlusconi mi ha detto che vince la Coppa Italia. Mi hanno detto che lui è sporco interista. L'aereo è di sola andata, Sinisa. O vince la Coppa Italia o l'aereo è di sola andata. Che è surreale questa cosa che cambi idea ogni 5 minuti, caro, io non so come la pensi te. È surreale, sì, ma insomma, sappiamo che Berlusconi ci pensa la notte. Secondo un giorno non ci ne crede. Fa una, il giorno dopo fa il contrario, venda buonasera, buonasera, buonasera, sento che state parlando del diavolo. Sì. E giustamente spuntano le corna. No, stiamo cercando di capire che cosa ha detto l'ultima volta questa cosa, che se vince la Coppa Italia se resta. Mi fa parlare, Capuano, mi lasci parlare, non sia come quei grillini che arrivano. Allora, vi stavo dicendo, ecco, questo era un mix in realtà fra Mikhailovic e Berlusconi. Sto diventando un aspetto, sto scherzando. Naturalmente, dicevo che bisogna essere, come sono io, coesi e molto positivi. Mikhailovic resta. Oh, quindi se vince la Coppa Italia. Mentre se non vince la Coppa Italia contro un'avversaria da ridere, cioè la Juventus, Mikhailovic fa le valigie. E poi magari dovesse anche vincere la Coppa Italia, fa le valigie lo stesso. La cosa, no, scusate, la cosa non è giusta. Il presidente sta scherzando. No, non si dice così al presidente, sai, Sinisa. Il presidente dice quello che dico io. E poi bisognerà vedere se stappiamo bottiglia di spumanti, se stappiamo bottiglia di buon prosecco. Mentre gente magari. Oppure tu invece c'ha la faccia da gazzosa. No, ma sai cos'è la cosa surreale? Cioè, noi stiamo facendo questa cosa, è più o meno quello che succede al Milan da qualche mese a questa parte. Comunque poi vada a finire la stagione. Signorina Schiattone, lei cosa fa questa sera? Sinisa fa il bravo. Sinisa fa il bravo anche perché l'anno prossimo ti dovrai trovare un'altra panchina. No, è surreale. Fuori dagli scherzi è surreale l'intera vicenda, perché sappiamo bene come Berlusconi non sia soddisfatto, non sia mai stato soddisfatto. Ma io non c'ho bacchetta magica di Harry Potter, tu c'hai bacchetta, mangi sempre panettone con pistacchi. Berlusconi io ce l'ho sempre, non lo vuole più. Io ce l'ho sempre la voglia di mangiare, siete voi che se volete... Ma non c'è problema, io posso andare dove volete. Sì, vai alla Lazio, lo sappiamo, vai alla Lazio. No, ma tutto questo quadretto è esattamente il quadretto di questi mesi del Milan, dove io ribadisco, dove succede... con la massima serietà, con la massima coesione, essendo io un presidente molto coeso, posso ribadire, lo dico ancora una volta, poi basta, che Sinisa Mihajlovic è e resta il nostro allenatore. Oh, fino alla Coppa Italia. Ma comunque possiamo fare gli auguri, lo mandiamo via al presidente. Sì, sì, presidente grazie. Presidente, grazie. Io faccio gli auguri di buon Ferragosto a tutti i nostri ascoltatori. Voi sapete che sto per diventare anche il presidente di Confindustria, di tutto sarà tutto mio, è tutto mio, e quindi posso decidere. La signorina Schiattone, abbiamo bisogno di una vicepresidenza, quindi insomma. Ferronato no, perché lui è comunista. Comunista. Cribbio, vergogna, vergogna, comunisti. Grazie, presidente. Si è giocato i minuti che aveva a disposizione. Sinisa, ciao, buona Pasqua. Ti devo prendere domenica, però io aspetto da 7 mesi. Va bene, noi invece torniamo domani, anche se Pasquetta ci siamo. Pasquetta ci siamo, anche domani sconto di mezz'ora, faremo staremo insieme dalle 14 alle 15 in diretta. I temi sono... Tu gente, fai sempre domande del cazzo. Ecco, è tornato, non se ne vuole andare. I temi sono quelli che abbiamo, insomma. I temi sono quelli che abbiamo, vediamo domani cosa è che è la vigilia di Germania-Italia, quindi insomma tutti in piedi per la vigilia di Germania-Italia. Ci fermiamo qui. Grazie Claudia Schiattone, autrice di questa puntata un po' Cribbio! Surreale. Gianmarco Ferronato in regia. Cribbio! Tutti convocati, weekend torna domenica prossima alle 17. Ciao, buona Pasqua. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale. Si aspetta solo il fischio, eccolo! Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati a 2024. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungerci attraverso l'email, Twitter e anche Facebook. Iniziamo da quello che ha deciso il consiglio di amministrazione di Enel, che ha approvato un piano da 2,5 miliardi di euro che permetterà alla società di portare fibra ottica attraverso Enel Open Fiber in 7,5 milioni di abitazioni in 224 città in aree di mercato, quindi dove già esiste un'infrastruttura, quella in rame, dove c'è un mercato e dove si può fare concorrenza. Allora, per quanto riguarda invece le aree a fallimento di mercato, quindi dove non c'è convenienza economica di investire, bisognerà attendere il lancio delle aste con le quali il governo metterà a disposizione le risorse del piano banda larga, e probabilmente questo è il mercato, comunque l'ambito più interessante, perché come giustamente molti consumatori dicono, vabbè, dove c'è già infrastruttura qualche cosa c'è, e in alcune aree del paese insomma ci sono anche delle infrastrutture che funzionano abbastanza bene, insomma non ci sono grossi problemi per collegarsi ad internet. Allora, nelle aree invece a fallimento di mercato bisognerà attendere che il piano che è stato ideato dal governo venga approvato dall'Unione Europea, e dovremmo essere vicini, dovrebbero mancare veramente poche settimane. Allora, in queste aree, ricordiamo, gli operatori riceveranno contributi per realizzare un'opera che rimarrà di proprietà dello Stato attraverso la società Infratel. Comunque qualche cosa si muove, molto lentamente, ma si muove, e su questo vi teniamo sempre aggiornati, anzi presto, quando alcune cose si chiariranno, magari avremo anche un ospite per fare il quadro della situazione. Va anche detto che attualmente c'è il problema della nuova governance di Telecom Italia. Sapete che si è dimesso l'amministratore delegato, bisogna trovare una nuova guida, e quindi quello è un tassello importante di tutto questo meccanismo molto complicato. Prima delle nostre digital news, volevo dirvi alcune cose di Nintendo. Allora, Nintendo è una società giapponese che aveva iniziato tanti anni fa a produrre carte da gioco, poi si è specializzata nei videogiochi, è stata anche una delle aziende protagoniste nel mondo dei videogiochi, si è inventata alcune soluzioni molto interessanti, oltre che alcuni giochi interessanti e di grande successo. Allora, più volte nella storia Nintendo è stata data per morta, invece Nintendo sorprende sempre. Allora, fra pochi giorni sarà disponibile anche in Europa la prima app, la prima applicazione di Nintendo per smartphone iOS e Android. Si chiama MiTomo ed è un social game che sta avendo un successo inaspettato in Giappone, dove in 3 giorni è già stata scaricata da 1 milione di persone, o comunque 1 milione di volte, magari anche una persona sola che l'ha scaricata 1 milione di volte. Comunque, partendo dalla propria fotografia, dalla propria foto, si fa un selfie, si può creare un avatar utilizzando uno dei personaggi Mii, che sono i cartoons già utilizzati da una decina d'anni sulla Wii di Nintendo. Si crea poi il proprio network di amici usando i propri contatti Facebook o Twitter, e poi si interagisce con questi avatar. È sicuramente un gioco, un'attività molto giapponese, però sta avendo un grande successo. Vedremo cosa succederà in Europa. E comunque la notizia è interessante perché Nintendo è sempre stata molto scettica nei confronti dei giochi su app per smartphone, perché in questo modo l'azienda non ha il controllo dell'hardware che ha sempre avuto con tutta la serie di console che ha prodotto fino ad oggi, ma il mercato è così ricco che non ci si può non essere. E quindi ha preso questa decisione. Tra l'altro ricordiamo che il mercato giapponese dei giochi su smartphone è il più ricco del mondo e vale 8 miliardi di dollari. I giapponesi sono sempre particolari, anche questa è una delle particolarità. Notizia in breve della settimana, 3 digital news. Digital news. Iniziamo da Apple, che ha presentato 2 nuovi prodotti questa settimana, uno smartphone e un tablet. Il nuovo iPhone SE, alcuni dicono che voglia dire special edition, è un 4 pollici, quindi confrontato con alcuni top di gamma di oggi, è un telefono, uno smartphone molto piccolo, ha il design del 5S con le caratteristiche e la potenza del 6S. Uno dei vantaggi di questo design è che i produttori di custodie o di altri accessori non devono cambiare nulla. La stessa logica è stata seguita per il nuovo iPad Pro da 9,7 pollici, stesse caratteristiche dell'iPad Pro da 12,9 pollici con ovviamente dimensioni più contenute. Sicuramente i nuovi prodotti serviranno ad Apple per aumentare le quote di mercato in tutto il mondo, accontentando i consumatori che vogliono prodotti più piccoli e o prodotti più economici. Digital News. Spotify ha tagliato un nuovo importante traguardo. Il fondatore numero uno della società, Daniel Ek, ha annunciato che la piattaforma di musica in streaming ha superato i 30 milioni di abbonati paganti. È un risultato importante per garantire un futuro economicamente sostenibile a Spotify, ma è importante per tutto il settore dello streaming, visto che per ora sono più i soldi pagati per i diritti che quelli incassati. Digital News. Secondo la rilevazione trimestrale di Akamai, la velocità media di connessione in Italia ad internet è oggi di 7,4 megabits. L'Italia sale di una posizione ed è 51esima a livello mondiale, 22esima in Europa per velocità di connessione media. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, vi auguro una buona domenica di Pasqua, questa è un'edizione speciale del nostro programma che trovate disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Ma ci sono anche mille altri modi per abbonarsi al podcast, che è un modo molto intelligente per riascoltare i nostri programmi. Potete utilizzare un sacco di applicazioni disponibili sugli store, quindi su iOS, su Android o anche sugli store per Windows o gli altri sistemi operativi, anche se le quote di mercato degli altri sistemi operativi si riducono sempre di più. Comunque andate e cercate podcast e ci sono molte applicazioni che vi permettono di gestire i podcast di Radio 24, ovviamente speriamo che sia per voi la prima scelta, ma anche altri programmi in giro per il mondo di altri editori, anche di singoli editori. Insomma, è un aspetto molto interessante di come si sta trasformando la radio. Riprendiamo tra poco. Bentornati a 2024, questa è la nostra puntata speciale per questa giornata di Pasqua, quindi vi auguro una buona Pasqua, una buona domenica e buon ascolto su Radio 24. Vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per ascoltare 2024 e naturalmente tutti gli altri programmi di Radio 24. Andate sul nostro sito internet oppure scriveteci una email 2024@radio24.it. Adesso vi riproponiamo una chiacchierata che ho fatto questa settimana con Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale dday.it, che in queste ultime settimane, ma il tutto è partito poi da una chiacchierata che abbiamo fatto durante il Consumer Electronics Show a Las Vegas, nei laboratori di D-Day hanno fatto una prova comparativa su uno strumento che utilizziamo tutti i giorni, o comunque quasi tutti i giorni, o comunque da questo strumento dipendiamo per molte delle nostre attività. Parlo delle pile stilo. Allora Gianfranco, per quale motivo sono importanti e perché si utilizzano ancora molto oggi? Vengono ancora molto utilizzate sia perché gli apparecchi che utilizzano le pile sono ancora molti, e poi magari scordiamo velocemente quali sono, ma anche perché è ancora misconosciuto largamente l'utilizzo delle pile ricaricabili, sì, che conviene moltissimo dal punto di vista economico, dal punto di vista di tutela, anche salvaguardia dell'ambiente evidentemente, che richiede però un minimo di ordine, il fatto di ricaricarle, possibilmente ricaricarle sempre in coppia, tenerle sempre in coppia, quindi questo piccolo lavoro con la pigrizia delle persone fa un po' a cazzotti e quindi si finisce per preferire largamente le pile usa e getta. Sì. Sì. Allora, quando parliamo di pile stiamo parlando sostanzialmente delle stilo, giusto? Beh, le stilo, le mini stilo, ci sono anche alcuni apparecchi che utilizzano ancora quelle mattoncino, sì, parallelepipedo da 9 volte, insomma ce ne sono diversi tipi, ma soprattutto le stilo e le mini stilo. Sì, ma dove vengono utilizzate ancora? Cioè, perché c'è questo grande uso, visto che oggi buona parte degli strumenti tecnologici che utilizziamo, smartphone, tablet, tutti i wearable, hanno delle batterie ricaricabili integrate molto spesso, che noi ricarichiamo la sera o durante il giorno. Questo è vero, però non è vero per esempio per tutta una serie di prodotti, come per esempio più classici sono tutti i giocattoli che vanno a elettricità, normalmente sono alimentati a pile, in alcuni casi anche quelle più grandi delle stilo, sì, quindi si va anche su batterie anche più importanti anche come prezzo. Altro potremmo... telecomandi? Tutti i telecomandi, anche se il consumo è molto basso, ma comunque servono. I flash delle macchine fotografiche, ma anche un'altra categoria che si sta molto diffondendo, che è quella dei sistemi antifurto, per esempio wireless, che essendo senza fili offrono la comodità di non dover tirare nessun filo, ma evidentemente richiedono una batteria proprio interno che, sì, va cambiata periodicamente, anzi prima che si scarichino, per non compromettere l'efficienza del sistema, ovviamente. Sì, in effetti questo è un non so se chiamarlo problema, è sì, io lo definisco uno dei problemi della smart home di oggi, vedendo molte proposte, soprattutto quelle chiamiamole retrofit, cioè io che nella mia casa già pensata, già progettata, con gli impianti già fatti, installo degli antifurti, dei rilevatori di fumo, mille altri sistemi, mille altri aggeggi, quasi sempre questi strumenti richiedono una batteria. E il problema qual è? Che poi se io ho 20 di questi sensori in giro per la casa, ad un certo punto, dopo un anno o due, ed è una cosa che dicevo a tutti i produttori che presentavano le loro offerte alle varie fiere, dicevo, vabbè, ma dopo devo fare 20 sostituzioni di pile. Assolutamente. E tutti ti dicono sì, sì. Certo. La stessa cosa vale per esempio per tutte le centraline di irrigazione, anche quelle che ci sono sui balconi, che ormai andiamo verso la stagione calda e riservano quest'anno, probabilmente richiederanno un cambio di batterie prima dell'inizio della stagione, per essere certi di non rimanere a metà agosto, magari quando siamo in vacanza, col balcone secco, perché semplicemente si è scaricata la pila. Allora, voi nel laboratorio di D-Day avete fatto una comparativa, avete fatto una serie di prove per capire quanto efficienti sono le pile usa e getta, e cercando di capire anche quanto costano. Tra l'altro sul costo c'è un ginepraio. Sul costo abbiamo avuto dei grossi problemi, perché non esiste praticamente un costo di listino, o se esiste non è assolutamente indicativo di quello che poi avviene sui punti vendita. E visto che, diciamo così, una pila è considerata minuteria, i prezzi sono variabilissimi. Si possono fare degli ottimi affari acquistando per esempio su internet, confrontando i prezzi. Spesso è una merceologia che si trova sulle testate di cassa dei supermercati piuttosto che delle grandi superfici specializzate, e lì i prezzi sono molto ballerini. Quindi abbiamo due variabili: una è la qualità della pila e quindi l'energia che è in grado di erogare, e l'altra è il prezzo con cui dobbiamo necessariamente confrontarci. Ecco, se sulla qualità siamo riusciti a fare delle misurazioni assolutamente precise, perché lo strumento che abbiamo ci consente di fare questo tipo di misurazione in maniera assolutamente scientifica. Certo. Ecco, sul prezzo non siamo riusciti a essere altrettanto scientifici. Abbiamo avuto delle indicazioni, abbiamo usato delle indicazioni. Motivo per cui non abbiamo un vincitore di qualità prezzo in questa prova comparativa. O meglio, ognuno potrà fare le sue considerazioni vedendo a che prezzo di massima, l'indicazione di massima, ma non possiamo eleggere un vincitore, perché basterebbe cambiare di poco il prezzo d'acquisto, e questo cambia invece anche non di poco in molti casi, per avere dei risultati anche drasticamente diversi. Allora, prima di tutto, Gianfranco, due grandi categorie: litio e batterie tradizionali, pile tradizionali. Beh, allora, le pile tradizionali noi abbiamo provato in realtà esclusivamente pile cosiddette alcaline. Una volta c'erano soltanto le primissime alcaline a Dura, cioè che aveva introdotto questa grande categoria, e tutte le altre pile zinco ferro carbone tradizionale, quindi quelle che forniscono delle prestazioni più basse. Adesso le alcaline sono un po' diciamo l'entry level per tutti, e quindi abbiamo provato tutte le alcaline più queste famigerate pile al litio, che non vanno confuse con le batterie e gli ioni di litio ricaricabili degli smartphone. Degli smartphone, per un'altra esempio. Cosa. Sono pile non ricaricabili, soltanto realizzate una tecnologia diversa che consente di immagazzinare nello stesso spazio più energia e quindi poi restituirne ovviamente di più. Il prezzo è più alto, l'energia è di più, e quindi a seconda dell'utilizzo, per esempio, se mi viene in mente per esempio il famoso sistema di antifurto come di cui parlavamo prima, se cambiare tutte le batterie è una noia, anche perché devo raggiungere tutti i sensori, prendere la scala, cambiare la batteria, e se tra l'altro la fine di una batteria può compromettere la sicurezza di casa, ecco che optare per una batteria al litio si può comportare qualche costo in più, magari cercherò di comprarla al meglio in modo tale da limitare questo extra costo, ma la durata è in alcuni casi doppia o più che doppia, e quindi la scomodità di dover fare tutto il cambiamento delle batterie viene differita molto nel tempo, e è un servizio questo per il quale si può pagare qualcosa in certo. più. Certo, quindi prima indicazione, se avete bisogno di batterie di lunga durata andate sul litio. Assolutamente, come energia, però poi all'interno delle batterie, se no non si spiegherebbe perché ogni produttore poi in gamma ha diversi modelli di pile, anche fra le alcaline, e in realtà all'interno della gamma ci sono pile che hanno una dinamica di cessione dell'energia che è diversa. Mi spiego, ci sono delle batterie pensate per i piccoli carichi, il telecomando, quei piccoli apparecchi tipo, non so, la centralina del riscaldamento, che hanno, che durano anche anni, consumi molto bassi, sì. No, e sono ottimizzate per cedere poca energia per volta e per mantenerla comunque più o meno costante, non costante ovviamente, ma per preservarla nel tempo. Okay. Quindi quelle che sono pensate per un funzionamento più a lungo termine. E di solito c'è scritto lunga durata. Lunga durata, long lasting, long life, eccetera. Okay. Eccetera. Ogni produttore ha la sua, dicitura. Sì. Invece quelle che sono high energy, che sono invece pensate per cedere energia anche molto velocemente, per esempio per gli apparecchi che consumano tanta energia, i giocattoli, sì. La macchina telecomandata che sì. si muove, ecco, quello lì quando va, non va sempre, ma quando va richiede tanta energia. Ecco, quelle sono batterie che danno il meglio di sé quando sono utilizzate in quelle condizioni. Sì. Queste e magari sono delle buone indicazioni, perché io non so quanti. No, no, ma non lo sa nessuno, cioè no, nessuno fa una considerazione di questo esatto, tipo. Noi compriamo, cioè, secondo secondo come ci piace, se ci piace la confezione, se ci sembra più credibile o no. In realtà sì. alcune volte non escludo che dietro queste differenze di batterie ci siano anche degli argomenti puramente di marketing e non tecnici, però da un punto di vista prettamente teorico ci sono, e anche poi pratico se le si misura, ci sono batterie in grado di dare più energia se l'assorbimento è lento e meno energia se l'assorbimento è veloce, e altre che si comportano in maniera sì. diversa. Senti, allora voi avete fatto questo test provando la durata a seconda anche dell'assorbimento diverso, e quindi possiamo dividere in due grandi categorie, cioè quelle che durano di più, che sono il litio, e tutte le altre, o tra tutte le altre ci sono delle differenze macroscopiche? Allora, ci sono delle differenze macroscopiche, e devo dire quella tra le alcaline, stiamo tra le alcaline sì, adesso, sì. quella che si è comportata meglio delle alcaline ha garantito un'energia più che doppia a quella rispetto a quella che si è comportata peggio. Quindi batterie vendute come alcaline apparentemente equivalenti hanno in realtà fornito prestazioni molto diverse. E quindi qui bisogna guardarci dentro. Il consiglio che do, perché per radio risulta molto complicato, visto che abbiamo provato 13 pile diverse, è quello di andare su D-Day, la prova comparativa delle pile che si trova comunque, in home page. Chi ha vinto? Questo disegno, beh, vince tra le alcaline Duracell, è quella che si è comportata meglio, uh-huh. a Duracell Ultra, mentre per esempio molto peggio si è comportata la stessa Duracell Simply, e quindi la batteria economica, cioè, quindi del resto è Simply, è Simply. Sì. Quindi non è la marca che certo. fa la differenza, ma la marca e il modello della batteria. Mm-hmm. Quindi le Duracell Ultra si sono comportate meglio di tutto il pool delle altre 9 alcaline che abbiamo provato, e seguita poi si può vedere dall'energizer che si sono comportate, Energizer Max in questo caso, che si sono comportate anch'esse molto bene, e le Varta Max Tech, anche queste molto bene. Su questo va ancora aggiunto il fatto di come invece si sono comportate quelle al litio, che, di cui dicevamo prima. Sì. Quelle al litio hanno praticamente raddoppiato, la migliore al litio ha praticamente raddoppiato le performance della Duracell. La migliore al litio, che è questa GP Lithium che abbiamo provato, ha garantito praticamente, ha superato i 3 ampere ora di energia, e quindi moltissimo, ha avuto un andamento abbastanza stabile in tensione, non è mai sceso velocemente. L'altra cosa che c'è da dire rispetto alle batterie al litio rispetto a quelle alcaline è che rimangono molto più costanti come tensione anche quando stanno andando verso lo scaricamento. Sì. L'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo comunque fatto un confronto di quanto costata questa energia all'euro, cioè quanti praticamente quanti chilometri ho fatto con un litro, se vogliamo dirla, sì, semplicemente, sì, no? Sì. Ma quanti ampere ora ho fatto con un euro. Sì. Ecco, e qui si possono vedere appunto nella nostra tabella che abbiamo fatto quali sono quelle che hanno reso meglio, però tanto abbiamo detto che i prezzi, sì, quindi, essendo variabili, poco indicativo, danno, diciamo, un'indicazione proprio non di massima, ma giusto per capirci, ci sono batterie che hanno reso 3,20 ampere ora per ogni euro e batterie che ne hanno rese 0,87, 0,77. Pazzesco. Significa praticamente essere a un quinto, a un quarto, un quinto della resa per euro, quindi sì, al sì, di là sì, del modello. Quindi vedete come si rischia di spendere fondamentalmente per la stessa energia 5 volte di più, certo, sbagliando batteria. Quindi l'indicazione potrebbe essere: andate a vedere quella che ha avuto le performance migliori e poi tenete d'occhio il prezzo, cioè quando trovate un'offerta su quella compratela. Assolutamente, sì, questo sì, è sì, un buon consiglio. Senti, ultima domanda, scadono le batterie? Cioè se le tengo, se le compro, e quindi magari le compro anche in grande quantità perché risparmio, le tengo lì mesi, beh, anni forse non va bene. Le batterie molte hanno proprio una data di certo, consumarsi preferibilmente entro, tanto sì, per intenderci. Sì, ovviamente sì, non deperiscono, non sono dannose per niente, però hanno un tutte le pile hanno una scarica naturale molto lenta, ovviamente, ma che comunque c'è, quindi è bene non fare una scorta eccessiva. Direi sì, che nella finestra temporale di un anno però non c'è mai si nessun problema. Fare. Come ultima indicazione vi consigliamo, e questo richiede anche un po' di disciplina, di non buttare le pile nel cestino, nei rifiuti no, tradizionali. Ci sono le isole ecologiche in quasi tutta Italia, e quindi fate la scorta di quelle che dovete buttare, poi andate sì, nei ci sono luoghi. quasi tutti i negozi di elettronica, sì, in quasi tutti i supermercati direi ci sono proprio degli appositi contenitori sì, in cui versare le pile esauste. Molto bene Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie mille. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso ci fermiamo, per noi c'è una breve pausa, poi riprendiamo e tra poco parliamo di sistemi di emergenza, di sicurezza in montagna, come la tecnologia sta aiutando anche questo settore, a tra poco. Questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, siamo in onda normalmente il venerdì sera tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30 con una breve replica, e quella che state ascoltando invece è una puntata speciale in occasione della Pasqua. Un buon ascolto, una buona domenica e una buona Pasqua, e naturalmente buon divertimento anche per i prossimi giorni, oppure buon lavoro se state lavorando. Adesso parliamo di come la tecnologia sta cambiando, migliorando, rendendo più efficienti, efficaci e veloci, questo è molto importante, i sistemi d'emergenza, o meglio i servizi di emergenza. In particolar modo ci occupiamo in questa puntata della montagna. In questo periodo, ancora in questo periodo, ma direi durante tutto l'anno, ci sono milioni di persone che passano le vacanze, passeggiano, sciano, fanno sport in montagna. A volte purtroppo ci sono dei problemi, in tutta Italia ci sono servizi di emergenza, in particolare il servizio Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, e che cosa sta facendo, che cosa si sta facendo per migliorare questi servizi grazie alla tecnologia. Sicuramente gli smartphone e le applicazioni sono un punto di partenza molto importante, molto interessante, perché ci dicono ad esempio la posizione dove si trova una persona, e su questo ci sono sicuramente delle novità molto interessanti. Ne vogliamo parlare con Alessandro Molino, che è vicepresidente nonché responsabile delle tecnologie del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Benvenuto a 2024. Ciao e grazie a voi. Allora, parliamo di quello che si può fare oggi, di quello che si fa oggi grazie ad un'applicazione che voi avete realizzato. Ricordiamo che si chiama GeoResQ, scritto così, GeoRes con la Q finale. Che cosa si può fare, che cosa è possibile quindi fare oggi? Sì, hai detto bene prima quando hai fatto un riferimento alla diffusione che hanno questi strumenti nell'uso comune, per cui è già da 3 anni che appunto abbiamo iniziato a lavorare su questo fronte, perché abbiamo ritenuto importante, diciamo, sviluppare degli strumenti che fossero efficaci soprattutto in termini di localizzazione delle persone. Per cui abbiamo lavorato in maniera mirata sviluppando l'app di GeoResQ, che è un applicativo a disposizione di tutti gli utenti della montagna, dietro il pagamento di un piccolo canone per poter sostenere dal nostro punto di vista il servizio. E con questa app, diciamo, abbiamo grosse possibilità di ottenere in tempi molto più rapidi l'informazione legata alla posizione geografica, che ovviamente è l'aspetto principale che consente di massimizzare l'efficacia e soprattutto i tempi dei soccorsi. Bisogna agire in modo attivo, cioè bisogna mandare una segnalazione e quindi bisogna essere coscienti? Allora, su questo aspetto, diciamo, possiamo differenziare. L'applicativo standard e gli strumenti standard che utilizziamo necessitano al momento della collaborazione dell'utente, quindi l'utente che decide di inviare l'allarme attraverso l'app perché si trova in difficoltà, o l'utente che collabora digitando sul cellulare alcune opzioni che vengono attivate nel momento in cui c'è necessità di prestare il soccorso. In realtà dal gennaio 2015 abbiamo avviato un altro filone di sviluppo legato all'autorizzazione che il garante della privacy ha concesso al CNSS, quindi al Soccorso Alpino, che è legata proprio alla localizzazione non consensuale. Qui, con una serie di limiti legati sia alla tipologia di smartphone sia al tipo di sistema operativo dello smartphone, abbiamo diverse possibilità. In alcuni casi siamo in grado di pilotare completamente lo smartphone per ottenere la posizione anche se la persona non è in grado di interagire. Quindi siamo nell'ambito della localizzazione non consensuale, ma che ha un grande risvolto importante nell'efficacia dei soccorsi, perché basta pensare alle persone che a seguito di un trauma non sono in grado di collaborare o addirittura hanno perso conoscenza, per cui, diciamo, abbiamo una carta in più da giocare su quel fronte. Ci stiamo lavorando in maniera molto spinta in questo periodo e contiamo a breve di ottenere già i primi risultati. In realtà su GeoResQ, già sulla prossima versione, almeno per quanto riguarda i cellulari con sistema operativo Android, siamo già in grado, per chi ha l'app già preinstallata sul proprio smartphone, di risvegliarle e ottenere la posizione anche senza la collaborazione della persona, che è già un bel passo avanti. Sì, sicuramente. Quindi mi sembra di capire che non ancora oggi, diciamo dal punto tecnico legale già oggi, ma ancora la novità non è operativa, sarà possibile o sarebbe possibile a riuscire ad ottenere la posizione con i dati GPS anche nel caso che non ci sia quell'applicazione installata, e anche e soprattutto nel caso in cui la persona non lanci un allarme attivamente. Sì, diciamo che è un lavoro che dovremo portare avanti in collaborazione anche con gli operatori telefonici. Perché se da una parte c'è la grande opportunità di aumentare le possibilità di sopravvivenza delle persone, quindi di salvare delle vite umane, dall'altra, trattandosi di un argomento molto delicato, dove dietro c'è tutto il discorso della privacy, no? Quindi un aspetto molto, molto delicato e molto sentito soprattutto negli ultimi anni, Dovremmo trovare un accordo con gli operatori telefonici per fare in modo che contemporaneamente venga preservata la sicurezza delle reti telefoniche, perché ovviamente quando si apre una breccia in una rete telefonica, diciamo, non sono sempre solo i buoni a passare, per cui è un aspetto che ha molta importanza e va preservato ovviamente. Certo, questo è sicuramente un aspetto molto importante, però diciamo tecnicamente è possibile appunto accedere alle informazioni, immagino nel caso il GPS sia comunque attivato sullo smartphone, cioè se uno prima di fare un viaggio in montagna disabilita la funzione GPS, probabilmente non si riesce, o invece è possibile in qualche modo ricavare la posizione? Allora, è tutto molto relativo. Diciamo che sia le reti telefoniche che i sistemi operativi degli smartphone hanno avuto quella necessaria evoluzione per garantire la sicurezza di questi sistemi. Per cui se dal punto di vista tecnologico è tutto possibile, dall'altra parte i sistemi di sicurezza hanno blindato tutta una serie di opportunità in varia maniera, più o meno profonda, a seconda dei sistemi operativi e della struttura delle reti telefoniche. Diciamo che questo è il cuore del problema. Quindi non è detto che sia sempre possibile ricavare la posizione. Non è scontato, non sì. È scontato. Però sicuramente approfittiamo per dare un consiglio alle persone. Quando si va in montagna potrebbe essere una buona idea installare GeoRescue, che ha la Q finale, comunque molto semplice da trovare, sì, sugli... È un gioco di parole. Sì, sì, sì. Sì. Questa applicazione è già installata da molte persone che vanno in montagna o con molta difficoltà riuscite a farla conoscere? Ma allora, diciamo che gli utenti complessivi, che sono prevalentemente utenti del mondo del club alpino italiano, compresi gli operatori del soccorso alpino, stiamo parlando di circa 10.000 persone che utilizzano questo strumento qua. Al di là del mondo del club alpino italiano, effettivamente gli utenti sono ancora pochi. Il nostro dubbio è che sia legato probabilmente al canone annuo da pagare, che dal nostro punto di vista non è una cifra enorme, ma è purtroppo una cifra obbligata, perché altrimenti non riusciremmo con le risorse nostre a sostenere sì. I costi legati prevalentemente alla centrale operativa e all'infrastruttura informatica. Quanti euro sono sì. richiesti? Allora parliamo di 24 euro per i soci, per le persone diciamo esterne al club alpino. I soci al club alpino invece, già con uno sconto del 50%, parliamo di 12 euro, riescono ad avere questo servizio salvavita per un anno. Sì, sì, in effetti comunque stiamo parlando non di cifre elevatissime, però stavi dicendo siamo alla caccia di? Siamo alla caccia di risorse che un domani si spera ci consentano di fare passi ulteriori, perché... diciamo, a noi disturbano un poco dover far pagare un servizio di questo tipo salvavita, un servizio che almeno per quanto riguarda l'allarme ci si augura che un domani possa essere gratuito sì. per tutti i cittadini, ecco. Sì, sarebbe bello che magari un operatore di telefonia mobile potesse sovvenzionare la spesa però immagino che ci siano dialoghi attivi anche con gli operatori. Quella potrebbe essere una soluzione, ma ne stiamo per esplorando anche altre. Senti, a proposito di tecnologia, state sperimentando anche l'utilizzo dei droni per emergenza e soccorso. Quali possono essere gli ambiti e i modi con cui possono essere utilizzate queste tecnologie? Allora, sui droni anche qua si apre veramente un mondo molto molto molto articolato. Gli apparecchi in questo momento stanno diventando molto, molto efficienti e stanno dando risposte molto positive sia in termini di autonomia che di possibilità di installare una serie di apparecchiature, perché passiamo dalle termocamere, passiamo dai appunto i riceventi per gli ARVA, possiamo passare anche a discorsi legati all'acquisizione di dati geografici. Apparecchi che possano servire per individuare direttamente il segnale telefonico di un cellulare, per cui si apre veramente una grande rosa di possibilità. Qui ovviamente si tratta di andare a individuare col tempo e in tempi brevi si spera una serie di soluzioni che poi risultino effettivamente applicabili in maniera concreta sul campo, quindi che risultino a loro volta quindi veramente efficaci. Però veramente là è un fronte, diciamo, dove c'è una frenetica evoluzione, stiamo cercando di seguire il passo per andare a prendere quelle cose che veramente poi potranno essere utilizzate sul campo. Molto bene, io ringrazio Alessandro Molino per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata, a presto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco e ci orienteremo verso lo spazio. A tra poco. Riprendiamo questa ultima parte di 2024, vi auguro una buona serata per quello che rimane di questa giornata di Pasqua, speriamo l'abbiate passata nel migliore dei modi. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Nella nostra puntata di questa settimana, che trovate sul nostro sito internet, anzi vi consiglio di abbonarvi al servizio podcast, così da avere la nostra puntata aggiornata settimana dopo settimana. Dicevo, abbiamo parlato anche di blockchain, la tecnologia alla base dei Bitcoin. Ci sono investimenti molto molto forti in tutto il mondo in questa tecnologia e noi abbiamo parlato con Giacomo Zucco, che è l'amministratore delegato di Blockchain Lab, che è una startup che si occupa di questa tecnologia come consulenza o per la ideazione di progetti in questo settore. Tenete conto che ci sono le più grandi banche del mondo che stanno investendo risorse soprattutto per fare ricerca, per capire come utilizzare questa tecnologia per trasformare il business della finanza. Molto molto interessante, quindi andate sul nostro sito internet oppure abbonatevi tramite le applicazioni, le app che trovate su smartphone per iOS, Android, Windows Phone, insomma tutti i sistemi operativi. Ci sono applicazioni che permettono di gestire i podcast, quindi di abbonarvi ad esempio a 2024. Vi ricordo anche che 2024 è l'unico programma di Radio 24 che vi propone nel podcast tutte le nostre interviste in versione integrale, quindi io faccio una chiacchierata con i nostri ospiti che sono l'eccellenza della tecnologia in giro in tutto il mondo e vi propongo la chiacchierata in versione integrale, così che si possa godere di tutti gli approfondimenti. Adesso ci spostiamo nello spazio, potremmo dire così. Sapete che ci sono due grosse società private che stanno investendo molte risorse per creare sistemi, sono però due sistemi diversi l'uno dall'altro, per portare turisti nello spazio. Già nel mondo commerciale, per gli astronauti o per i satelliti, i privati stanno investendo molte risorse, ma anche in questo settore ci avviciniamo sempre di più. Allora, da una parte c'è Blue Origin, che utilizza razzi, che quindi vengono lanciati alla maniera che conosciamo da una rampa di lancio, società americana finanziata da Jeff Bezos, il numero uno di Amazon, e poi c'è Richard Branson con la sua Virgin e la sua divisione spaziale che si chiama Virgin Galactic. Uno dei piloti di Virgin Galactic, che abbiamo già avuto ospite a 2024, è Nicola Pecile, un italiano che ha una lunghissima esperienza nell'aeronautica, ha guidato praticamente di tutto ciò che vola, lui lo ha guidato e dallo scorso autunno è uno dei piloti di Virgin Galactic. Bentornato a 2024. Grazie per il vostro invito. Allora Nicola, due parole su come funziona il vostro sistema, che non è un razzo che parte con una rampa di lancio. Tra l'altro ricordiamo che circa un mese fa è stata presentata la nuova navetta che si chiama Unity. Come funziona il tutto? Sì, la navetta nuova è di fatto una copia quasi identica della precedente, che come probabilmente ricorderete è stata persa in un incidente durante una prova di volo nell'ottobre del 2014. Ovviamente il veicolo nuovo presenta alcune migliorie che sono state introdotte sia nella parte esterna del veicolo stesso, ma anche nella parte del cockpit, di come gli strumenti sono disposti e di come i piloti possono interagire con la strumentazione, con i sistemi di bordo. Il veicolo Spaceship 2 di fatto è lo possiamo considerare come un secondo stadio di un sistema più complesso che prevede il trasporto in quota tramite un velivolo madre che viene chiamato White Knight 2, e la navetta è di fatto appesa al di sotto di questo veicolo madre e viene sganciato da una quota molto elevata per poi continuare la salita in maniera pressoché verticale fino al raggiungimento delle quote suborbitali. Una volta raggiunte le quote suborbitali, poi il veicolo si riconfigura con la parte posteriore che viene alzata in maniera da generare un valore di resistenza aerodinamica molto elevato nella fase di rientro. Così facendo le velocità vengono mantenute sempre a livelli molto bassi e si evita così di riscaldare la superficie del veicolo in maniera eccessiva, così come probabilmente ricorderete succedeva su altri su altre navicelle come lo Space Shuttle o come l'X-15. Quindi una volta configurato per la fase di rientro in questo modo, la navetta rientra in maniera molto tranquilla e simulando un po' come un rientro quasi di una piuma o di una foglia, così come le vediamo cadere normalmente, fino a che rientra nell'atmosfera vera e propria, al punto in cui viene deconfigurata di nuovo e quindi si trasforma di nuovo in un velivolo tradizionale che poi plana su una pista da cui di fatto è partito con il veicolo madre. Adesso non vorrei correre troppo in là, però potremmo immaginare che quindi questo sistema potrebbe volare da qualsiasi luogo del mondo, quindi non è richiesta una rampa di lancio, un'infrastruttura molto complessa e quindi con un vincolo geografico. Assolutamente vero, infatti serve semplicemente una pista tradizionale di qualunque aeroporto commerciale di una certa dimensione. Ci sono delle idee di poter portare il progetto anche in Europa. Tra l'altro l'Italia potrebbe essere una piattaforma di lancio ideale per le condizioni di meteo che generalmente sono migliori anche rispetto a parti del nord Europa, quindi potremo magari nel futuro, se il programma avrà successo, vedere sicuramente un'attività del genere anche operare dall'Italia. Per quanto riguarda il tuo programma di volo, quali sono le tappe delle prossime settimane o dei prossimi mesi? Ma adesso ho completato da poco la transizione e la certificazione sull'aereo madre White Knight 2, quindi adesso sono qualificato al 100% per volare come pilot in comando, quindi come pilota responsabile a bordo, e in questo periodo specifico stiamo seguendo tutte le prove a terra, che sono ovviamente molto intense perché ogni sistema dovrà essere testato sia per le condizioni di funzionamento normale ma anche per le condizioni in possibili situazioni di emergenza, quindi dobbiamo assicurarci che ogni sistema porti avanti la propria parte di responsabilità e di lavoro così come è stato designato a fare, e quindi questo è un programma molto lungo e porterà via probabilmente i prossimi 2 o 3 mesi. Dopodiché saremo pronti a quel punto per la fase effettiva di volo e quindi c'è anche una preparazione che viene fatta settimanalmente sul simulatore che rappresenta la navetta a direi un livello di fedeltà quasi prossimo al 100%, quindi ogni settimana facciamo delle prove in cui ruotiamo i piloti all'interno del simulatore, ma la cosa interessante è che tutta la parte di ingegneri e di ingegneria che richiede il supporto a terra durante una missione tipica di volo viene addestrato anche in questa fase, quindi c'è un link fra il simulatore e la cosiddetta control room in maniera tale che tutti gli ingegneri che saranno davanti ai propri schermi di responsabilità per quanto riguarda il relativo sistema a cui sono assegnati hanno la possibilità di addestrarsi e di simulare tutte le condizioni di volo nominale e di volo in condizioni di emergenza. Un'ultima domanda che è una curiosità sul simulatore è, tu hai detto appunto che riproduce la navetta, compresi anche i movimenti, quindi sono dei martinetti pneumatici che muovono tutta la struttura? No, il simulatore ha la parte di quello che noi chiamiamo la parte vision, quindi c'è la possibilità di vedere il mondo esterno così come lo si vedrà durante un volo vero e proprio, però non ha una motion, quindi il simulatore si muove. È fermo a terra, no, esatto. Però permette di vedere e di simulare tutte le operazioni al 100%. E non solo quelle nominali, ma anche quelle d'emergenza. Sì, sì. È così anche, io non sono esperto naturalmente come te, ma qualcosa l'ho visto e ho provato, è così anche per gli aerei da guerra, cioè caccia militari, perché mi hanno spiegato che nessuna macchina sarebbe in grado in un simulatore di riprodurre i movimenti di un aereo così. Esattamente, infatti nel mondo civile invece esistono simulatori che permettono anche di avere la full motion, e tant'è che sono certificati al 100% dalle autorità aeronautiche. Infatti un pilota generalmente commerciale che vola su un Boeing o su un Airbus generalmente fa la sua qualifica nel simulatore, e la prima volta che vola sul velivolo proprio è con i passeggeri dietro, che la cosa può sembrare un po' spaventosa per chi magari è seduto dietro, però in realtà il livello di simulazione è talmente elevato che non c'è assolutamente nessuna differenza fra il velivolo vero e proprio e il simulatore. Nel nostro caso, viste le forze in gioco, le accelerazioni, la dinamica del volo stesso, è una cosa molto difficile da realizzare, se non impossibile, e di conseguenza non abbiamo la parte del motion. Molto bene, io ringrazio Nicola Pecile per essere stato con noi, buon lavoro, in bocca al lupo e naturalmente a presto. Grazie a voi e restiamo in contatto, speriamo di avere buone novità nel corso dell'anno, e sicuramente il programma partirà più o meno quest'estate, e restiamo in contatto per ulteriori informazioni. Beh, non c'è dubbio che noi rimarremo in contatto. Rimanete in contatto anche voi. Avete ascoltato una puntata di 2024. Trovate tutto sul nostro sito internet, le nostre interviste in versione integrale. Io sono Enrico Pagliarini. Tra poco ci sono le notizie di GR24. Vi auguro una buona serata, una buona Pasqua. Ci risentiamo la prossima settimana, oppure quando volete, sul nostro sito internet. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024. @radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. E adesso gli auguri di Pasqua ce li possiamo fare. Qui dal Groove Master Studio, Gigi Telesforo e Silvia Barba vi augurano buona Pasqua, miei cari amici. Auguri a tutti, auguri Gigi. Eh sì, grazie a tutti i sostenitori del nostro soundcheck per gli auguri che hanno raggiunto il nostro studio attraverso i social network che noi teniamo attivi quotidianamente, e soprattutto con la posta elettronica soundcheck@radio24.it. Quindi ricambiamo via etere e gli auguri di Pasqua. Che puntata allora, hai preparato quest'oggi? Allora, puntata come sempre very jazz per la domenica sera. Potevo selezionare un airplay adeguato alla giornata, ma credo che in qualche modo questo tipo di musica sia adeguato a qualsiasi tipo di contesto sociale. Esatto, è quattro stagioni anche. Brava, ecco, è musica quattro stagioni sempre. Allora, vorrei partire subito con una recentissima pubblicazione che ha come protagonista la vocalist bianca americana, ma che poi l'America l'ha trovata in Inghilterra, Stacey Kent. elegantissima, dolcissima. Io l'ho conosciuta quando vivevo in Francia e uscì un album in lingua francese, quindi è anche poliglotta, se poliglotta, vogliamo. Poliglotta, canta, moi, canta sì. anche in portoghese, perché molto spesso si è cimentata, sì, appassionata del genere, si è cimentata molto spesso che so, col repertorio di Antonio Carlos Jobim. Invece in questo nuovo album intitolato Tenderly per la Oki, distribuzione della Sony Music in tutto il mondo, realizza una produzione molto intima e quindi, per essere intima da un punto di vista sonoro, non ha coinvolto batteristi, ecco. E quindi si fa accompagnare dal contrabbasso di Jeremy Brown, Roberto Menescal alla chitarra, ecco. E suo marito immancabile al sax tenore e al flauto, il suo marito si chiama Jim Tomlinson. Vedi, si è fatta una cosa familiare. Sì, a conduzione familiare. L'album è molto piacevole e il brano che ho selezionato per presentarvelo è una delle ballad, lei lo fa però con un medium, un tempo medium, e si intitola No Moon at All, bellissimo. Ascoltiamo. What a night. Even lightning bugs have dimmed their lights. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to bark, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right, and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. Di Stacey Kent dal nuovo album intitolato Tenderly al soundcheck di Radio 24, dove arriva un veterano. Sì, perché questa è la cosa bella del jazz, che ci sono degli album in origine in vinile che continuano a essere ristampati, e la cosa bella del CD che ti permette di poter avere in mano addirittura tre album in vinile. Sì, perché in questa raccolta di Les McCann, uno dei miei pianisti preferiti, ci vengono proposte dalla casa discografica tre performance, non una, in location diverse, una performance a Hollywood, a New York e a San Francisco. Io consiglio questo album di Les McCann a tutti i musicisti della nuova generazione che in questo momento iniziano a comprendere questa incredibile alchimia, commistione di generi, dallo swing tipico del jazz al al groove tipico del funk. Perché? Perché Les McCann è uno dei papà del soul jazz. E tra l'altro ho più volte parlato di Les McCann, per esempio, con uno dei pianisti italiani più accreditati, che è Dado Moroni. Lo dico perché Dado, quando suona cose un po' più soul, si rifà senz'altro alla lezione impartita da Les McCann. Beh sì, lui negli anni 70 veniva ingaggiato anche da gruppi un po' fuori da quello che era l'ambito prettamente jazzistico, no? Certo. E quindi l'R&B, il soul, addirittura Tina Turner, Santana, insomma Wilson Pickett. Ha avuto anche un'esperienza di pubblico ricco. Come che no? Veniva da questo tipo di musica, perché era sempre il 1971 quando ha partecipato ad un concerto di 14 ore ad Accra, in Ghana, dove erano... Certo, un concerto che è stato anche ripreso dalla televisione, è stato più volte messo in onda, e Les McCann, insomma, fa la sua sporca figura, collaborazione con il sassofonista Eddie Harris, e poi soprattutto musicista dotato di un grandissimo senso dello show, dello spettacolo e dell'umorismo. Les McCann arriva qui al soundcheck di Radio 24 con un classico bluesacchione del suo repertorio, si intitola Big Jim. Les McCann con il suo trio al soundcheck. Thank you. Soundcheck, il suono della musica. GR24, il sole 24 ore. Ben ritrovati dalla redazione, edizione delle 19.30. Sale ad almeno 63 morti, tra cui 45 cristiani, il bilancio della strage di Lahore in Pakistan. La maggior parte delle vittime sono donne e bambini che stavano celebrando la Pasqua in un popolare parco della città. I feriti cristiani sarebbero 125 su un totale di circa 300. La polizia belga ha arrestato 10 dei circa 450 hooligans di estrema destra che hanno invaso Place de la Bourse a Bruxelles. Il gruppo di tifosi è stato disperso dagli agenti che ha usato idranti e gas lacrimogeni. Le autorità del Belgio avevano vietato per motivi di sicurezza la marcia contro la paura che si sarebbe dovuta svolgere oggi. Molte persone si sono comunque ritrovate nella piazza. E a 5 giorni dagli attentati, la polizia belga è ancora alla ricerca dei presunti complici, prevalentemente francesi e belgi, di quanti si sono fatti saltare in aria all'aeroporto di Zaventem e alla stazione metro di Molbeek. Complici che potrebbero essere fuggiti in Siria. 13 le perquisizioni dell'antiterrorismo nella notte, presi 4 degli 8 ricercati, ha reso noto la Procura federale di Bruxelles. Bashar al-Assad celebra la riconquista dell'antica città di Palmira, strappata all'ISIS con l'aiuto dei russi. Un risultato importante, prova dell'efficienza dell'esercito siriano e dei suoi alleati, ha dichiarato Assad. Travolto dalle critiche, Robert De Niro fa un passo indietro e ritira dal Tribeca Film Festival di New York, di cui è fondatore, il controverso documentario incentrato sul discusso tema del legame tra i vaccini e l'autismo. Lo ha fatto sapere lo stesso De Niro. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo. Lo slovacco Peter Sagan ha vinto la Gand Wevelgem, prima delle classiche del nord di ciclismo, allo sprint. La corsa belga si è svolta per decisione degli organizzatori e delle autorità, nonostante gli attentati di Bruxelles. Durante la stessa corsa, grave incidente per il corridore belga Antoine de Moitié-Lille, ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto e poi investito da una moto. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 21. Soundcheck. Il suono della musica. Speak with on the telephone. Call up. Just a little girl too far in love with me. If you get two, save me one, Clark. I want a little girl. She may not look like a picture in a storybook, but if she can cook, she's just a little girl for me. I repeat, if you get two, save me one. She don't have to wave her hand nor put on fancy clothes. No, no, no, even care if she didn't wear nylon. Oh, let her go bare-legged, let her go bare-legged. I want a little girl. Me too. Just to love a lot. Love, love, love, love, love. Just want to give her everything that I've got. Yes, yes. Just a little girl too. Fall in love with me. Halfies, halfies. Thank you. right, that's right. Put on all of those fancy Sunday go to meeting clothes. That's right, baby. You know one thing? I wouldn't even guess. What did you get? You see, sì, perché poi quando parte il blues è inarrestabile e qui stiamo proprio ai massimi livelli, un bluesacchione intitolato I Want a Little Girl, la voce quella inimitabile di uno degli eroi del jazz, il grande Clark Terry, che incontra Bob Brookmeyer. Che meraviglia l'impasto sonoro della tromba e del filicorno di Clark Terry con il trombone a pistoni di un maestro come Bob Brookmeyer. Bob Brookmeyer, considerato uno dei papà dell'arrangiamento jazz da big band, un musicista che non riuscì a diplomarsi al conservatorio ma che poi ha insegnato per anni proprio composizione al conservatorio per i più giovani. Sono storie jazz quelle che raccontiamo come sempre al Soundcheck di Radio 24 e con la nostra Silvia Barba, che è rimasta qui con la bocca aperta, perché poi quando senti un blues così capisci dove sta la verità. E come fai a non ascoltare e non essere attratta da questo? Tra l'altro io sono già proiettata al commento di tuo papà che ci sta ascoltando. Ah, mio padre quando sente puntate così esclama: so, che puntatone hai fatto oggi. Ma questo ti telefona? Già. Sì, adesso infatti aspetto, a volte faccio la selezione proprio pensando a lui, a cosa piacerebbe a papà, e quindi sono sicuro che dopo questa puntata mi chiamerà, mi farà: Madonna, che puntatone hai fatto. Sono cose belle. Speriamo. Papà, allora, visto che sei in ascolto, sicuramente lo sei, è Pasqua e quindi siamo insieme, non abbiamo mangiato la colomba insieme, tanto vale che siamo in contatto via etere. Propongo al mio papà, e sembra proprio quelle puntate delle radio private, quelle locali, sì, propongo al mio papà un altro bluesacchione con altri due personaggi che hanno fatto la storia del jazz, due musicisti come Bobby Hackett, trombettista, e il meraviglioso Zoot Sims alla tromba, tra l'altro ben supportati da Hank Jones per esempio al pianoforte. Tanto per dirne uno, e anche così, questo è un bluesacchione intitolato Blue Moment, e questo è il Soundcheck di oggi qui su Radio 24. Yeah. Soundcheck, il suono della musica. Soundcheck, il suono della musica. Quizás en África, ¿qué importa? Tú dime cuándo, cuándo, ¿dónde están tus manos? ¿Dónde tu nariz? Hace un día triste y gris y tengo sed todavía. Tú dime cuándo. Deja de mirarme, amor, que estoy cansado, porque pienso en el futuro. Tú dime cuándo, cuándo. Somos ángeles que no paran de llorar. No me dejes de mirar, que tengo sed todavía. Salgas de mi triste amargura, de mis recuerdos y de esta extraña locura, y el paraíso que no existe. Quien quiere un hijo no insiste. No, no. Tú dime cuándo, cuándo. Aún quiero sentir a mí, porque mi amor no se ha acabado. Tú dime cuándo, cuándo. Sé que nunca te tendré, pero en tu cara una risa se prepara, porque me quieres todavía. Viviré, sí viviré, cuando salgas de mi vida y amargura, de mis recuerdos y de esta extraña locura, y el paraíso que ahora existe. Quien quiere un hijo no insiste. Che composizione quella scritta da Pino Daniele, quando, ma nella versione di Israel Varela, qui al Soundcheck di Radio 24. Per la prima volta proponiamo questo album di questo eccellente musicista, batterista, percussionista, compositore, ma anche formidabile vocalist, da un po' di tempo impegnato con musicisti italiani. E qui la voce di Israel Varela, per questa interpretazione magistrale di Quando, incontra il pianoforte magico di una mia carissima amica, la bravissima Rita Marcotulli, che è stata più volte ospite del nostro Soundcheck. E sì, Israel Varela e Rita Marco Tulli più volte collaborano insieme anche in concerti, partecipando a festival importanti. Qui si incontrano in questa nuova produzione del nostro batterista messicano, album intitolato Invocations, nel quale Israel Varela propone anche la sua vena creativa. Beh, lui è un artista completo, devo dire. Io ho visto dei concerti dove riesce a conciliare le sue origini, quelle appunto messicane, con tutto il background successivo da quando si è trasferito in Italia. Ha suonato con, voglio dire, uno tra tanti, Pat Metini, con Pino Daniele, quindi insomma ci siamo un po' emozionati con questa versione, devo dire. Bellissima versione, la ascolteremo ancora qui al Soundcheck di Radio 24. Noi siamo quasi ai saluti, abbiamo però il tempo, mia cara Silvia, di ascoltare un altro brano tratto da Invocations di Israel Varela, e approfitterei allora della presenza anche in questa composizione di Rita Marco Tulli, perché l'organico in questo album viene completato dal bravissimo Angelo Trabucco al pianoforte, Alfredo Paisciao al basso elettrico, Paola Repele come backing vocals, la partecipazione anche di Karen Lugo, questa meravigliosa ballerina di flamenco. Vedi? Che sì, qui non si può vedere nel disco, però si può sentire che cosa combina sul palco, sulla tavola. Io l'ho vista dal vivo, emozionante. Bellissimo. Vedere il binomio ritmico, le percussioni, la batteria, il ritmo di Israel Varela abbinato proprio all'eleganza e alla danza tipica del flamenco di Karen Lugo. Ma ascoltiamo Everything Is Not, e questa è una delle mie composizioni preferite fra quelle scritte dalla bravissima Rita Marco Tulli. E quindi Rita Marco Tulli e Israel Varela chiudono questa puntata del Soundcheck. Ancora a tutti voi buona Pasqua. Io vado a preparare le cose per il picnic di domani. Pasqua, è vero, domani è Pasquetta, non mi sono proprio organizzato. Tu sei chiuso in questo studio, invece vabbè, domani guarda, mi fido, vengo con te, non dai, se ne parla più. Dai. Ci risentiamo sabato prossimo dalle 19:15 sempre qui su Radio 24. Ancora auguri da Gigi Telesforo e Silvia Barba. Thank you. Soundcheck, il suono della musica. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Mix 24, i gialli della storia. Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente. Articolo 416 bis. Associazione di tipo mafioso. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da 3 o più persone è punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. E la Rognoni La Torre, la legge che introduce il reato di associazione mafiosa e stabilisce il sequestro dei beni dei mafiosi. Uno strumento decisivo nella lotta alla mafia che si deve al sacrificio di Pio La Torre, deputato del PC, il primo parlamentare a essere ucciso da Cosa Nostra. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la sua storia. Il 30 aprile dell'82 alle 9:27 del mattino il dirigente comunista muore insieme al suo autista Rosario Di Salvo in un agguato nel cuore di Palermo. E quello contro la mafia per Pio La Torre è stato l'impegno di tutta una vita. Eletto nel 72 Montecitorio, nel 1981 Pio La Torre chiede di tornare in Sicilia come semplice segretario regionale. E dietro a questa decisione c'è un motivo fortissimo. La Torre, infatti, è contrario alla decisione del governo Spadolini di accogliere i missili NATO a Comiso, in provincia di Ragusa, come dichiara in un'intervista l'11 ottobre dell'81. Noi non vogliamo che la Sicilia diventi un avamposto di guerra, ma una base di pace, un punto di riferimento per l'intesa, la collaborazione pacifica di tutti i popoli che si affacciano sul mare Mediterraneo. È il 20 novembre dell'81 Pio La Torre organizza a Palermo una manifestazione contro le basi NATO. Secondo le sue stesse parole, una manifestazione storica, impensabile. Ascoltiamo Alfredo Reichlin e l'avvocato Armando Sorrentino. Beh, fu sorprendente il successo, bisogna dire la verità. Io non ci avrei creduto che lui riuscisse a mettere insieme un movimento così vasto. Un movimento di massa che non ha precedenti in Sicilia se non andando indietro al movimento per l'occupazione delle terre, ma con una originalità notevolissima, perché mette assieme pezzi della Democrazia Cristiana, addirittura di questa Democrazia Cristiana, e anche l'intero Partito Socialista. La nostra parola d'ordine resta la richiesta al governo italiano di sospendere la costruzione della base missilistica a Comiso come contributo originale dell'Italia alla creazione del clima più favorevole per il successo del negoziato ginevrino. Questa è la posizione di questa manifestazione. Pio La Torre dunque viene ucciso nel pieno di una battaglia che secondo lui è contro la guerra ma anche contro la mafia. Ma per capire perché è stato ucciso Pio La Torre dobbiamo ripartire dalla sua storia. Pio nasce il 24 dicembre del 27, è il più piccolo di 5 fratelli e la madre, riconoscendolo le doti, vuole che studi. A raccontarlo sono gli amici Domenico Bacchi e Lucia Mezzasalma e il figlio di La Torre, Franco. Ha l'amore per studiare, lui capisce che non quel lavoro che sta facendo lì, che suo padre gli vuole fare fare, dezzappare, coltivare il terreno, non porta da nessuna parte. A 12 anni già andava e veniva dalla scuola a piedi, non c'erano picciole per l'autobus. È uno dei motivi per cui lui va via da Altarello. Il padre gli dice chiaramente: qui, caro Pio, se tu fai questa scelta a noi ci ammazzano e tu che stai a fare qui vattene via. E infatti mio padre se ne va, perché gli avevano già dato fuoco alla porta della stalla di famiglia. Dopo aver abbandonato Altarello, Pio La Torre si trasferisce a Palermo, dove trova sistemazione di fortuna. È il 48. A soli 21 anni diventa responsabile giovanile della CGIL e responsabile organizzativo del PC palermitano. E proprio nella sezione del Partito Comunista fa l'incontro più importante della sua vita, quello con Giuseppina Zacco, la sua futura moglie. Ci siamo conosciuti in federazione, la federazione del Partito Comunista, che io sono entrata e dietro al tavolo c'era questo ragazzo. Al che mi dice: ma che fai? Sto entrando perché mi voglio pigliare la tessera del partito. L'hai letto Lenin, l'emancipazione della donna? No. E allora leggiti prima questa e poi viene. Ecco, non c'ho caldo, poi cerchiamo di indovinare. Dopo 2 o 3 giorni ci sono ritornata. Ho detto, l'ho letta un pochettino. Allora possiamo discutere, aspetta che io vengo con te. Ma le gambe, a me piacciono di più. Bello, proprio bello. E nella mia testa dissi, questo me lo devo sposare. Sullo sfondo dell'incontro con Giuseppina, anni di dura battaglia politica. Siamo alla vigilia delle elezioni del 48 e la banda di Salvatore Giuliano terrorizza la popolazione. Il 10 marzo del 48 a Corleone la mafia uccide un sindacalista in Sicilia, è il 35esimo, il suo nome è Placido Rizzotto. A sostituirlo alla guida della Camera del Lavoro di Corleone sarà proprio lui, Pio La Torre, che nel 49 pronuncia questo discorso. Nel nome di Placido Rizzotto dobbiamo lottare uniti per la giustizia contro l'arroganza della mafia e dei campieri che vogliono le nostre terre. Noi dobbiamo continuare ad occuparle perché la terra non è dei signori che la lasciano incolta, ma di chi la lavora. Nel 1949 il Partito Comunista guida le grandi occupazioni delle terre in Sicilia a fianco di Pio La Torre, Emanuele Macaluso e Domenico Bacchi. Ci fu una grande ondata dopo il 48, dopo una seconda ondata di grande occupazione di terre che c'erano state nel 46, nel 47, e pensavano che con la vittoria del 48 della Democrazia Cristiana, la sconfitta del Fronte Popolare, tutto si sarebbe fermato. Invece nel 49 abbiamo ripreso il movimento dei contadini. E noi, occupando le terre, avevamo un colpo al potere mafioso agrario della Sicilia. Incidevamo profondamente. Io guidavo quella mattina il corteo di Bisaquino. Era lungo 4 o 5 chilometri. C'erano 5.000 o 6.000 persone che marciavano come un esercito pacifico, ma fermo nelle intenzioni. Vidi arrivare una colonna di automezzi. Centinaia di agenti e carabinieri si appostarono in assetto di guerra ai bordi della strada. Un gruppo di carabinieri si fece avanti verso la testa del corteo e tentò di strappare le bandiere dalle mani delle donne. Dalla massa dei contadini partì una sassaiola contro i carabinieri. A quel punto il commissario Parico diede ordine di sparare. Un commissario di pubblica sicurezza, falsamente, dichiarando il falso, disse che La Torre gli aveva dato un colpo di legno. Pio La Torre rimarrà a Luciardone per 1 anno e mezzo. Chiuso in una cella di isolamento, gli sarà negato di vedere la madre morente e passerà molto tempo prima che possa riabbracciare la giovane moglie incinta. Così descrive la sua prigionia nel libro Comunisti e Movimento Contadino in Sicilia. La scena era davvero orribile. I detenuti erano dietro a una porta di ferro con tanti buchi. Ognuno infilava la testa dentro un buco. In mezzo c'era un corridoio dove passeggiava un agente di custodia. Di rimpetto c'era l'altra porta di ferro, dalla quale sporgevano le teste dei familiari. sembrava una bolgia. I detenuti urlavano per farsi ascoltare dai familiari e viceversa. Rimasi davvero sconvolto. Non riuscivo a dire nulla. Figuriamoci mia moglie. Aveva gli occhi pieni di lacrime e mi guardava con un sorriso carico di sofferenza. Il 23 agosto del 51, dopo un anno e mezzo, esce finalmente dal carcere. Scagionato da ogni accusa, può tornare alla politica. La sua carriera è folgorante. Dal 52 siede nel Consiglio Comunale di Palermo e poi diventa segretario regionale della CGIL, prima del PC siciliano poi. E ancora nel 62 diventa deputato dell'Assemblea regionale siciliana. Tutta la sua attività politica sembra avere un unico bersaglio, la mafia. Dopo le lotte contadine, Pio La Torre decide di impegnarsi nell'amministrazione comunale ed è il primo a criticare Vito Ciancimino pubblicamente. Queste le sue parole. Consideriamo il caso di Villa Deliella, che il popolo palermitano riconosce come patrimonio da salvaguardare. Addirittura il ministero ritenne di vincolarla come monumento. Il 28 novembre 1958, data fatidica, il proprietario della villa presenta domanda di demolizione dell'edificio. L'assessore Ciancimino firma la licenza e picconi e camion all'opera si inizia la demolizione della villa. Tutto questo in un solo giorno. Vito Ciancimino è sindaco di Palermo per solo 11 giorni, ma padrone della città per 30 anni. A lungo ricopre l'incarico di assessore all'urbanistica con il sindaco Salvo Lima. Ce ne parla il giornalista Attilio Bolzoni, Luciano Violante e Giulio Andreotti. Vito Ciancimino non è un amico di Cosa Nostra, è Cosa Nostra. È un organico a Cosa Nostra ed è nelle mani per almeno 20 anni di Bernardo Provenzano. Salvo Lima, lo raccontano alcuni collaboratori di giustizia, ma era un uomo molto all'interno delle famiglie di Cosa Nostra, della zona occidentale di Palermo, tant'è che nella primavera del 1992 viene ucciso, come si uccidono i traditori, lo colpiscono alle spalle, viene ucciso perché non aveva rispettato i patti, quindi lo consideravano molto vicino a loro. La commissione antimafia che io presiedevo disse soltanto una frase su questo punto, che Lima aveva rapporti con le organizzazioni mafiose. Lima apparteneva alla corrente Andreotti, se ci sono responsabilità politiche del presidente Andreotti per questo lo deciderà il Parlamento. Cioè, questo fu il punto, secondo me, equilibrato. Il Parlamento non si è mai pronunciato su questo. È venuto fuori così, una specie di presentazione di Lima come una specie di persona da dimenticare. Ora io a tutt'oggi, insomma, Lima, insomma, non so nemmeno una contravvenzione che gli abbia dovuto fare, un comportamento scorretto. Lui è stato sindaco per tanti anni, cioè, di aver fatto una sopraelevazione arbitraria. Insomma, io so solo che è un poveretto che è morto ammazzato, insomma, ha avuto amicizia per tanti anni, non mi ha mai chiesto una cosa che non fosse assolutamente corretta, insomma. Però le leggende sono dure a morire, insomma, Lima, però insomma uno inarca le ciglia, insomma, quando parla di Lima. E l'unica cosa vera è che questo poveraccio l'hanno ammazzato. Insomma. Ma dopo la grande battaglia contro il sacco edilizio di Palermo, per la carriera politica di Pio La Torre arriva una battuta d'arresto. Dopo la sconfitta alle elezioni regionali del 67, La Torre è costretto a cedere il posto di segretario del PC siciliano all'amico Emanuele Macaluso. Ben presto però La Torre approda alla direzione centrale del PC. Poi nel maggio del 72 viene eletto alla Camera e come deputato entra subito a far parte della commissione antimafia che nel 76 conclude i lavori. Ma la relazione di maggioranza è ritenuta insoddisfacente dal gruppo comunista, che presenta una relazione di minoranza. A spiegarlo lo stesso La Torre, intervistato da Giuseppe Marrazzo. Nella relazione di minoranza che abbiamo stilato insieme a Cesare Terranova, come gruppo comunista, e che è stata fatta proprio dalla sinistra, sono elencati nomi invece di persone che ancora ricoprono importanti responsabilità, dall'ex sindaco Cecimino all'onorevole Matta, all'onorevole Lima, all'onorevole Gioia. Uno dei punti focali dell'indagine era costituito dal sistema di potere mafioso a Palermo. Intanto però in Sicilia qualcosa sta cambiando. Nel 79 infatti le cosche danno inizio a una serie impressionante di omicidi eccellenti. Dal giornalista Mario Francese al segretario provinciale della DC Michele Reina, dal vice capo della squadra mobile Boris Giuliano al giudice ed ex deputato comunista Cesare Terranova. Una mattanza anomala per un'organizzazione come Cosa Nostra, abituata a servirsi delle istituzioni più che a colpirle. Ma la mafia stavolta punta in alto. Il suo prossimo obiettivo è addirittura il presidente della regione Sicilia, un democristiano impegnato in un'intensa azione di rinnovamento, Pier Santi Mattarella. E il 6 gennaio dell'80 a parlarcene il fratello Sergio Mattarella. Io ne abito di fronte alla casa in cui era Pier Santi, e sono stato chiamato da mio nipote, da suo figlio, che mi diceva di scendere immediatamente. Non avevo ben capito cosa fosse successo. Sono sceso, l'ho preso, l'ho portato al pronto soccorso. Mi fermo qui. Lui la domenica usciva con la famiglia. Io credo che fosse consapevole che se avesse avuto la scorta la domenica avrebbero fatto un massacro, e l'assenza di scorta invece avrebbe tenuto al riparo i suoi familiari, perlomeno. Nel febbraio del 79 a Palermo Pio La Torre interviene alla conferenza regionale dell'agricoltura insieme al presidente della regione siciliana Pier Santi Mattarella. A raccontarlo è ancora suo fratello Sergio Mattarella. La Torre in quell'occasione fece un attacco molto duro alla conduzione dell'assessorato all'agricoltura. Si dice che tutti attendevano dal Presidente della Regione una difesa dell'azione dell'assessorato, che invece non venne, perché in quella conferenza, nelle sue conclusioni, Pier Santi sottolineò l'esigenza che l'assessorato si muovesse con criteri di trasparenza, di legalità, di visibilità, di correttezza maggiori. Questo raffigurava l'immagine di un fronte impegnato attivamente e concretamente contro le infiltrazioni mafiose e comunque di corruzione, che superava i confini di partito e quindi era particolarmente incisivo e pericoloso per gli interessi illeciti. Pier Santi aveva come obiettivo una buona e rigorosa amministrazione regionale, che fosse efficiente, come lui era solito dire, con le carte in regola. Roma, 8 gennaio del 1980, alla Camera dei Deputati, Pio La Torre parla dell'omicidio di Pier Santi Mattarella. Secondo La Torre, questo omicidio è l'ennesima prova dell'intreccio tra mafia e politica. Io credo che La Torre avesse ragione. Non si uccide il Presidente della Regione per una questione di appalti, anche se questi toccano interessi mafiosi molto grandi. Credo che La Torre intendesse dire che un atto di tale impudenza e aggressività verso le istituzioni può essere fatto soltanto se si ha la percezione di avere degli altri interessi che condividono questo delitto. E quegli stessi interessi presumibilmente sono disturbati anche dall'attivismo di Pio La Torre. Il deputato comunista infatti questa volta ha deciso di sferrare un attacco decisivo contro la mafia. Il 31 marzo dell'80 Pio La Torre deposita alla Camera una proposta di legge rivoluzionaria discussa a lungo con i suoi compagni di partito. A raccontarlo uno di loro, Luciano Violante. Si lavorò insieme per mettere a punto questo testo. Lui cercava di convincerci, e ci convinse naturalmente, che il problema di fondo era togliere, lui diceva, i piccioli, i soldi alla mafia. Concentrare la nostra attenzione sull'illecito arricchimento, perché la mafia ha come fine appunto l'illecito arricchimento. Allora è lì che dobbiamo mettere i riflettori.

Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it. GR24, il sole 24 ore. Ben ritrovati dalla redazione, edizione delle 20:30. Il gruppo Jamatul Ahrar, già legato al principale gruppo talebano pakistano Tehrik e Taliban Pakistan, ha rivendicato l'attentato odierno a Lahore che ha causato oltre 60 morti. Per l'esattezza, per il momento le persone rimaste uccise sono 69, in stragrande maggioranza donne e bambini della minoranza cristiana. L'attacco suicida è avvenuto in un parco pubblico gremito di famiglie che celebravano la Pasqua. Il kamikaze si è fatto esplodere vicino a delle altalene in mezzo alla folla, oltre 300 i feriti. La polizia belga ha arrestato 10 dei circa 450 hooligans di estrema destra che hanno invaso Place de la Bourse a Bruxelles. Il gruppo di tifosi è stato disperso dagli agenti che ha usato idranti e gas lacrimogeni. Le autorità del Belgio avevano vietato per motivi di sicurezza la marcia contro la paura che si sarebbe dovuta svolgere oggi. Molte persone si sono comunque ritrovate nella piazza. Sono 730 i migranti soccorsi in 6 diverse operazioni coordinate oggi dalla Guardia Costiera nel Canale di Sicilia, in un tratto di mare compreso tra 30 e 50 miglia a nord delle coste libiche. Tutti i migranti sono stati trasferiti a bordo della nave norvegese Saint Pilot, che sta facendo ora rotta verso Pozzallo. Tafferugli sono scoppiati tra due gruppi di profughi al campo di Idomeni al confine greco-macedone dopo che diversi migranti afghani e pakistani hanno cercato di oltrepassare la barriera. Questi ultimi hanno sfondato per ben 2 volte il recinto formato da siriani e iracheni, ma sono stati respinti dalla polizia antisommossa greca. Tra i manifestanti afghani e pakistani sono presenti anche numerosi attivisti. Ai migranti siriani e iracheni è consentito l'ingresso in Europa come rifugiati di guerra, anche se la rotta verso i Balcani è ora chiusa. La procura di Grosseto ha aperto un'inchiesta sul crollo avvenuto oggi nella sala delle Rocchette, il ristorante a palafitte sul mare che si trova nell'omonima località balneare nel comune di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. La struttura è stata posta sotto sequestro. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, solo contusioni. Svaligiata nella notte la villa di Allegra Agnelli, vedova dell'imprenditore Umberto Agnelli e madre di Andrea. La casa si trova all'interno del Parco della Mandria, alle porte di Torino, nel comune di Fiano. I ladri hanno portato via gioielli per un valore ancora non quantificato. E questa era la nostra ultima notizia, la prossima edizione alle 21. Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Sono andati allo stadio insieme, hanno ascoltato insieme l'esecuzione degli inni nazionali, hanno perfino fatto la ola insieme, trascinati o magari trascinando l'entusiasmo dei 60.000 presenti sugli spalti dello stadio latinoamericano della Habana. Certo non è stato l'unico motivo, ma certo anche il baseball ha così contribuito ad avvicinare Barack Obama e Raul Castro nel recente e storico viaggio del presidente americano a Cuba. For 50 years. We had no contact with this country, and it was not serving our ultimate goal, which is freedom and opportunity for the Cuban people. Per 50 anni non abbiamo avuto contatti con questo paese e ora il primo e comune obiettivo è il miglioramento delle condizioni di vita e della libertà del popolo cubano. Da oggi iniziamo una nuova pagina delle nostre relazioni politiche, ha sottolineato con forza Obama. Proprio mentre attorno al diamante i Tampa Bay Rays, franchigia dei professionisti della Major League della vicina Florida, l'approdo di tanti esuli cubani, affrontavano e battevano la nazionale dell'Havana. Insomma, in tanti l'hanno già battezzata la diplomazia del baseball, visto che proprio lo sport della palla e della mazza è stato terreno di conoscenza, poi di scontro, poi ancora di dialogo tra Washington e L'Avana, prima, durante e ora dopo la rivoluzione castrista. Ne parliamo oggi con alcuni ospiti che, tra l'altro, ci aiuteranno a capire anche il ruolo non marginale svolto proprio dall'Italia in questa complessa rete sportivo-diplomatica. Benvenuto allora a Olimpia, Riccardo Fraccari, ex arbitro internazionale e ora presidente della World Baseball Softball Association. Salve, buonasera. E ben trovato a Olimpia anche Riccardo Schiroli, storico del baseball e autore del libro Un gioco, un sogno, dedicato proprio a questa splendida disciplina. Grazie e buonasera. Allora, Riccardo Schiroli, ti chiedo subito, da dove trae origine questo legame che unisce Stati Uniti e Cuba attraverso il baseball? Il baseball dagli Stati Uniti è stato esportato nei Caraibi quasi immediatamente. Diciamo che il baseball è uno sport ottocentesco come nascita e nei Caraibi si è sviluppato in maniera direi parallela per un certo periodo, poi anche alternativa a quello professionistico americano, perché sfruttando le condizioni climatiche che consentivano di giocare 12 mesi all'anno, sono stati creati campionati con una stagionalità diversa. Quindi fin dagli anni 30 del 1900 nei Caraibi e a Cuba in particolare, il baseball è diventato una disciplina che poteva essere paragonato come interesse a quel che accadeva negli Stati Uniti nello stesso periodo. Un quadro questo che cambia profondamente dopo la rivoluzione di Fidel Castro nel 1959, vero? Diciamo che Fidel Castro, subito dopo la rivoluzione, ha fatto di tutto per evitare che continuassero i rapporti con il baseball americano, che in qualche maniera utilizzava Cuba come serbatoio. Salvo poi pentirsi e iniziare a tentare di riportare squadre americane a Cuba dagli anni 70. Poi non ci riuscì, si dovette arrivare al 1999 perché una squadra professionistica, quindi esattamente 40 anni dopo la rivoluzione, tornasse a giocare a Cuba, e fu grazie all'intervento dell'amministrazione Clinton. Però la cosa non bella che è accaduta è che sostanzialmente il regime cubano ha cancellato dai libri di storia i protagonisti della nascita del baseball a Cuba, della nascita del baseball organizzato anche a livello internazionale, come ad esempio il colonnello Jaime Marinet, che non è nei libri di storia a Cuba, ma è certamente nei libri di storia del baseball in quanto fu uno dei primi presidenti della Federazione Internazionale e uno degli uomini che hanno permesso al baseball di avere un campionato mondiale fin dai primi anni 40. Di fatto, Riccardo, quindi c'è stata una tabula rasa anche attorno al diamante. È stata fatta una sorta di tabula rasa, tant'è che le persone a Cuba nate negli anni 60-70 raramente parlano un inglese accettabile. E chi lo fa è perché ha continuato più o meno legalmente a seguire il baseball attraverso le onde radio. Non dimentichiamo che appunto la Florida è vicinissima a Cuba, sono poche miglia di mare, e di conseguenza le stazioni radio si possono, diciamo, captare sia per quel che riguarda le onde medie che le FM. E di conseguenza l'unico contatto vero con il mondo occidentale per il cubano medio è stato per tantissimi anni proprio il baseball. Solo che fino a che non si è sviluppato a un certo livello il turismo, era anche molto difficile a Cuba vedere le partite in TV. Poi purtroppo il contatto è diventato negli anni successivi diverso da quando i giocatori hanno iniziato a lasciare l'isola per andare a giocare negli Stati Uniti. Ecco, Presidente Fraccari, in questo quadro politico-diplomatico molto complesso, lei e la Federazione Italiana siete stati spesso chiamati a svolgere un ruolo di veri e propri mediatori per far dialogare due mondi tanto distanti. Un po' po' per i miei trascorsi arbitrali, in cui praticamente io sono stato il primo arbitro straniero che ha arbitrato nel loro campionato dopo la rivoluzione, perché ho fatto un mese di un clinic a L'Avana. È nato un rapporto che poi ovviamente nel mio ruolo di presidente della Federazione Italiana e poi mondiale si è andato intensificando. Ricordo il momento ero ancora presidente della Federazione Italiana quando la MLB istituì il World Baseball Classic, che a quel tempo non riuscivano a parlare, a dialogare con Cuba, e per caso mi trovavo a New York nella sede dell'MLB per altri motivi, e avendo appunto questi rapporti con le autorità cubane disse: beh, ci provo, vediamo se posso essere di aiuto. Telefonai al ministro a Cuba spiegando la cosa, spiegando l'importanza della presenza di Cuba in questa manifestazione. Mi chiese qualche giorno, si consultò con l'autorità e dopo venne la risposta che avrebbero avuto erano diciamo d'accordo nel incontrare gli americani, però in Italia come presente, e così fu in un albergo di Bologna l'incontro che diede via poi alla partecipazione di Cuba al Classic. Da lì ovviamente poi le cose sono continuate, anche perché una volta eletto presidente della Federazione Mondiale, il mio vicepresidente era ed è Antonio Castro, il figlio di Fidel Castro, per cui diciamo che avevo una corsia preferenziale. Beh, direi proprio di sì, Presidente. Senta, in questo contesto si sono moltiplicati negli anni, anche per le pressioni esercitate dall'embargo statunitense sull'isola, i casi di giocatori fuggiti dall'Avana proprio verso gli Stati Uniti e verso i milioni di dollari dei professionisti del diamante. Ecco, Riccardo Schiroli, ti chiedo, attualmente quanti sono questi campioni? In questo momento ci sono una cinquantina di cubani che sono fuggiti per andare a giocare negli Stati Uniti, ma la maggioranza di questi lo ha fatto negli ultimi anni. Prima era una questione che accadeva episodicamente, ora è veramente una fuga. E di questi 19 giocano ai massimi livelli, ci sono anche 5 All-Star e di conseguenza è una presenza piuttosto qualificata nelle Major League americane. Da quando è Raul Castro il presidente, sono state fatte diverse azioni verso la liberalizzazione, non ultima quella di consentire agli sportivi di andare all'estero a giocare, ovviamente su autorizzazione del governo, però evidentemente finché gli Stati Uniti non tolgono il cosiddetto blocco, come lo chiamano a Cuba, l'embargo, non potranno andare legalmente negli Stati Uniti. Vedremo ora cosa cambierà dopo questa storica visita. Facciamo ora una breve pausa, poi andremo proprio a Cuba per respirare l'amore per il baseball. Olimpia, miti e verità dello sport. Preguntò se hai preso politici. Perché il paese tiene prisioneros políticos cubanos? Va bien, es la única que no te voy a permitir. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlo. Menciónalo ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Il tema dei prigionieri politici, come avete sentito dall'acceso scambio di battute tra un giornalista e Raul Castro, è entrato di forza tra gli argomenti caldi del viaggio di Obama a Cuba. Chissà che anche questo non sia un nodo che possa essere sciolto anche grazie alla diplomazia del baseball, che ha avuto nel match tra la nazionale cubana e i Tampa Bay Rays il suo culmine a chiusura del soggiorno di Obama a L'Avana. Ne stiamo parlando con Riccardo Schiroli, storico del baseball e responsabile media della Federbaseball, e Riccardo Fraccari, presidente della nostra Federbaseball ed ex arbitro internazionale. Ecco, presidente Fraccari, lei a Cuba ha arbitrato e anche ai massimi livelli. Le chiedo, c'è un ricordo personale che la lega a quello stesso stadio latinoamericano in cui sono entrati insieme Obama e Raul Castro? Io, come le ho detto, ho fatto un mese di corso a quei tempi, quando ero arbitro italiano. Ovviamente il baseball in Italia sì, era anche, però non è come il calcio, no? Per cui diciamo che quando io vedevo negli stadi 4-5.000 persone, per me era, in Italia era già molto. E mi ricordo che alla fine di questo stage di un mese le autorità sportive ritennero che io avrei potuto arbitrare appunto questa partita assieme agli arbitri cubani. A L'Avana, si immagina, il cuore mi batteva a mille all'ora, e salgo la scalinata e entro nello stadio. Per entrare nello stadio c'era una specie di scalino che io non vidi, vidi soltanto intorno a me 40-50.000 persone, per cui guardando in alto inciampai, e la mia entrata nello stadio latinoamericano fu con la maschera per terra, ruzzolando per terra, quindi si immagina la vergogna davanti a 50.000 spettatori. Insomma, mi ripresi e poi la partita andò. Ecco, questo è un episodio che mi lega, che mi ricordo sempre con, in maniera particolare. Insomma. Beh, scherzi dell'emozione di fronte a 60.000 spettatori, tra cui non mancano e non mancavano dei veri e propri personaggi, vero Presidente? C'era un tifoso che tra l'altro è stato premiato da Fidel Castro con una macchina che si chiamava Armandito il Tintorero, che lui era immancabilmente presente a tutte le partite di baseball lì allo stadio latinoamericano di L'Avana. Chiaramente io a quel tempo andavo vestito come gli arbitri professionisti americani, nero, no? Quindi a Cuba non la giacca nera, questo non si vedeva, e lui urlava dalle gradinate: Fraccari, Corsario Nigro, e questo Corsario Nigro si è poi continuato come nome. E un giorno, una volta io ero a Cuba, mi ricordo che stavo andando al Comitato Olimpico, dovevo svoltare a sinistra con la macchina, non mi resi conto che c'era il divieto, e un poliziotto mi fermò, quindi ovviamente mi contestò la multa, eccetera, eccetera, mi chiese il passaporto. Quando guardò mi disse: Fraccari, sì, e Corsario Nigro, sì, ah, poi lei, e così mi salvò dalla multa e mi fece passare. Cose che dalle nostre parti magari capiterebbero a un calciatore. Segno, Riccardo Schiroli, che il baseball è davvero lo sport più amato nell'isola. Il baseball è veramente lo sport nazionale di Cuba sotto tutti i punti di vista, non ultimo quello che ha rappresentato una sorta di rivalsa nei confronti degli Stati Uniti, tant'è che a Fidel Castro nel 69, quando Cuba vinse al mondiale contro gli Stati Uniti, è attribuita una frase delle sue, diciamo: gli americani sono capaci di andare sulla luna ma non ancora di batterci a baseball. Il significato è tutto qua. Con le nuove generazioni è tutto molto più sfumato, ovviamente, però resta un'abitudine consolidata dell'abitante di L'Avana di recarsi al posto che loro chiamano la Esquina Caliente, cioè l'angolo caldo, che è una piazza di L'Avana dove si va appositamente per litigare sul baseball. Questo tipo di attitudine, di approccio, è tipico dello stadio cubano e di tutto il Caribe di lingua spagnola. Il pubblico partecipa moltissimo, molto polemico, discute ad alta voce le decisioni degli allenatori. Già il baseball è uno sport di strategia, e per i cubani lo è doppiamente, perché qualsiasi strategia decisa dal manager trova qualche contestatore tra il pubblico. Quindi è un'atmosfera di questo tipo molto, molto viva, diciamo così, molto lontana dall'atmosfera degli stadi americani, che è molto più rilassata. Anche a te chiedo un ricordo personale legato al diamante vissuto proprio a Cuba. Ero nel 2003 con la nostra nazionale, l'Italia giocò un amichevole contro Cuba, ma non era ufficiale, quindi pochissima gente allo stadio, ma c'era uno spettatore che su un giocatore di Cuba disattento che venne eliminato sul cuscino di prima dal nostro lanciatore proprio per una distrazione, si alzò in piedi per gridare: ti devi vergognare. Un gesto che è rimasto talmente mitico, così nell'immaginario di chi gestisce quello stadio, che quando questo spettatore, che è recentemente venuto a mancare, era un uomo piuttosto anziano, al suo posto è stata costruita una statua che lo raffigura nell'atto di scagliarsi contro questo giocatore reo di non essere stato concentrato al 100% in un amichevole. Questo per me è il simbolo un po' di come i cubani vivono il peso. Beh, come darti torto? Tanti ricordi, dicevamo, tante emozioni, ma Presidente Fraccari, le chiedo ancora, a questo punto si fa peccato a sognare una finale olimpica tra Stati Uniti e Cuba? Certo, non dimentichiamo però che c'è l'Oriente, c'è il Giappone che è fortissimo, i professionisti asiatici sono molto forti, ma certamente se, e anche qui occorre rivedere, il governo cubano permette agli esuli cubani di giocare con la nazionale cubana, beh, allora certamente Cuba diventa ancora un nostro duro da... Questo sarà uno scoglio, ma di qui al 2020 può darsi che si riesca a superare anche questo ostacolo. Grazie a Riccardo Fraccari e Riccardo Schiroli per essere stati ospiti di Olimpia. Chiudiamo con un'altra voce, che davvero è un ponte tra Italia, Cuba e Stati Uniti. Laidel Ciapelli, grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera, buonasera a tutti. Classe 1971, cubano, Ciapelli ha giocato dal 97 al 2003 nella Serie Nacional cubana, per poi trasferirsi dopo il matrimonio in Italia, dove gioca ancora oggi e ha vestito anche la maglia azzurra. Laidel, ecco, immagino una grande emozione per te vedere Obama a Cuba, per di più proprio a vedere una partita di baseball. A dire il vero, di sicuro si apriranno le strade per noi giocatori di baseball, per sviluppare al meglio possibile, anche sempre con la cubania nostra e nostre radici. Poi a livello di tutti i cubani, anche lì penso che si apra un po' le strade per sviluppare il nostro paese, che è stato sempre detto come un paradiso, ma un po' chiuso, insomma. Speriamo bene questa visita del Presidente Obama. Tu poi ti sei tolto anche la soddisfazione di battere la nazionale americana ai mondiali del 2007, quando vestivi la maglia azzurra, no? Sì, abbiamo vinto là contro gli americani, che poi tra le altre cose, più soddisfazione per la unica partita che hanno perso in quel mondiale è stato contro l'Italia. E per fortuna mia c'ero anche io. E senti, a questo punto, aumenta per te il desiderio di tornare a Cuba, magari anche per giocare una sola partita? Io tornare a Cuba non penso, perché ormai qua ho la famiglia, i bambini tutti, però tornerei volentieri e si vedo che migliora tutto e c'è un altro sviluppo di là. Però sono legato all'Italia comunque, perché qua bambini non lascio mica per strade. Laidel Ciapelli, in bocca al lupo allora per il proseguo del campionato e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Va bene, grazie a voi, crepi al lupo. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.